quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Roma nuda, scusa se perdo lacrime di strada, mal che vada, fa finta che so gocce d'erugiada. Dimostra ancora una volta che Roma è una città antifascista, antinazista e anche antimafiosa. Un randaggio in qualche vicoletto, cammino a piedi scarsi, almeno finché tarsi, dormi e vedrai che manco me sentirai. È tornato Marino! Ma che vada! È tornato dalle ferie! Qualcuno l'ha accolto bene. Avete sentito una donna che gli ha detto: non sei solo, fatti dare un bacio. Qualcuno gli ha detto: quando c'è stavano i funerali, stavi a pescare i tonni! I tonni stavi a pescare! In qualche vicoletto! E lui, sapete che ha questa strategia del tutto a posto? Ha commentato così, dice il Corriere della Sera: che bella accoglienza. Lui è il chirurgo asettico, il marziano, no? Tutto a posto. Romano. Comunque è tornato Ignazio Marino. Possiamo chiudere dunque felicemente questo venerdì, la 122esima settimana, decisiva ovviamente per l'abolizione delle province. Va in archivio, purtroppo con un nulla di fatto, non... anche questa settimana niente, è stata decisiva, ma le province ci sono ancora, ma confidiamo molto nella 123esima che inizia settimana prossima, lunedì. Speriamo, speriamo. Roma nuda. Andiamo in archivio anche la prima settimana di lavoro, di rientro, qui a 24 mattino con Lorenzo Nespoli, Peter Bescapè. Ormai vedo la cronicizzazione della stanchezza sui loro volti perché non ho uno specchio per guardare la mia, quindi è tutto a posto, tranquilli. Da adesso vedrete solo buio, non distinguerete le ombre intorno a voi e da lunedì si può entrare in questo... in questa bolla di stanchezza perenne con serenità, l'importante è questo, con serenità, allegria e gioia. Alle 6:32 minuti siamo qui. Voglio intanto salutare due graditissimi ritorni, credo che sia tornata anche in onda, Vladimir Luxuria. Buongiorno, come stai Vladimir? Buongiorno, bene. Anche tu sei rientrata, sempre il geco e la farfalla, sempre... Sì, sempre il geco alla farfalla su Radio Capital, sì. Vedi che scambio di favori. Dalle 9, hai visto. Allora, Vladimir Luxuria è qui, è tornato Ignazio Marino, è tornata anche, la saluto, eccola là, un'altra capolista, salutiamo la capolista, l'interista Silvia Brasca. Finché eccoci. Dura, buongiorno a tutti, brava. E saluti a Vladimir. Mi piace questo atteggiamento, finché dura in testa, perché c'è il derby alla ripresa del campionato, quindi sai già il destino dell'Inter. No. Vabbè, tutto al più riaggancio. Vabbè, magari, un bel aggancio. Ma Vlad, tu tieni a qualcuno? Sei tifosa? Ma vivo a Roma, quindi tifo, se vince la Roma sono contenta. Beh, e c'è, poi ci sta anche la Lazio, volendo. Beh, c'è anche il Foggia, se per questo, perché io sono di origine foggiana, quindi rosso nero ci piace, però, rosso nero ci piace. I Satanelli, Roma merda, eccolo qua. No, senti Esposito, Esposito da Zanzara, quanto ne combina. Roma ecco, merda. No, vabbè, adesso poi dopo ci accusano di questo. Sapete che proprio Ignazio Marino è tornato. Pare che la prima giunta abbia guardato Esposito dicendo tu fai un po' più prudente nelle dichiarazioni. Vedi un po', non so. C'è uno che all'assessore alla mobilità a Roma, come dire, per conquistarsi la simpatia della città dove lavora, dove comunque è un'istituzione, che ricorda, ma ricanta una canzone. Su Roma, come dire, un po' come se un presidente dell'Arcigay facesse, non so, delle battute volgari contro i gay. Effettivamente, forse un pochino più prudente poteva essere. Però è tornato Marino, dai, tutto a posto, è tutto sotto controllo. Ma tu andresti in strada come Gasman a pulire un po' sotto strada, sotto casa tua? Ma io vivo al Pigneto, dove c'è la movida, e sicuramente verso le 5 c'è un bel tappeto di bottiglie. Temo che se uscissi di casa la mattina presto con la scopa qualcuno magari mi scambia per una Befana. Però in realtà a parte questo. No, però in realtà, diciamoci la verità, ok, no, apprezzo il gesto di Gasman, che ha fatto questo e che ha purtroppo messo il dito nella piaga, perché diciamoci, Roma è sporca, cioè c'è proprio su questo punto, Roma è una città sporca. Però effettivamente c'è anche chi dice, vabbè, ma è come le ronde, no? Giustizia fai da te, pulizia fai da te, quello che non fanno gli altri, paghiamo le tasse e lo dobbiamo fare noi. Però magari se lui è bravo, visto in un'ora e mezzo come Mastro Lindo ha pulito il vicoletto, sì, è così bravo. Vabbè, magari, ma infatti, pure a casa mia, vabbè, è una cosa anche un po' mediatica. Non so, tu Silvietta andresti, vai giù per Milano per le strade, perché anche Milano è un po' sporca, diciamo la verità, ormai le città italiane sono molto meno di Roma, meno di Roma, può essere questo, ma la sporchiamo di più, c'è il problema delle città sporche che le sporchiamo noi, quindi sì, è un po' più sporca. Guarda, no, queste cose qua non le ho ancora fatte, e appunto sono nella schiera di chi non ha il migrante in casa. Ti parlo da una stanza chiamata stanza camera degli ospiti, e ogni volta che entro qua mi domando se non fosse il caso di ospitare qualcuno, se non è il caso di ospitare qualcuno, e non c'è, mi arrabbio se la città è sporca, non scendo con la ramazza, e quindi non giudico niente. Non mi permetto. Vabbè, ma paghiamo le tasse comunque. Paghiamo le tasse, sì, quindi. Certo, però ci sono dei momenti in cui appunto, prima è tanto facile fare una fotografia, metterla su Twitter e commentare, metterla su Facebook e commentare. È anche tanto facile sporcare in maniera incivile. Questo perché gran parte, secondo me, dello sporco delle città è dovuto al fatto che non c'è senso civico, e quindi sporchiamo perché tanto pensiamo che passi uno a pulire, insomma, parliamoci chiaro. È un po' così. Comunque Marino è tornato, ed è tornato anche con una bella querela per diffamazione. Ve la ricordate la famosa frase sulla destra nelle fogne? Eccola qua, Ed è quello che veramente io ho visto arrivando in Campidoglio, e dobbiamo dirlo, dopo le rovine lasciate da quella destra che oggi si erge a scudo morale di questa società. Ma non hanno vergogna? Perché non tornano nelle fogne da dove sono venuti? Eccoli! E due militanti della destra lo hanno querelato per diffamazione, e Marino risulta indagato, per carità. Vladimir Luxuria, sono quelle querele, insomma, non è una roba gravissima. Se uno fa il politico, forse qua si è lasciato un po' andare Marino, però deve rispondere di querela per diffamazione. Tu ne hai qualcuna di querela per diffamazione? No, spero di non beccarmela adesso durante questa trasmissione. No, vabbè, ma perché? Non hai detto niente di, no, niente di male per ora, però poi... Beh, no, diciamo che forse non so se si riferiva alla raccolta differenziata invitando quelli della destra a ritornare nelle fogne, però di sicuro poi dopo lui si è scusato in qualche modo, infatti. Quindi no, diciamo che ha tenuto veramente fede al principio che ha espresso quando ha incontrato il sindaco di New York De Blasio, secondo il quale se ogni giorno tu non ti fai un nemico vuol dire che non stai dalla parte giusta. Devo dire che ogni giorno Marino qualcuno insomma se lo fa contro. Sì, sì. E effettivamente la domanda di Mauro da Lugano, che ci manda un messaggio al 349-238-6666, la domanda da $1,000,000, e cioè: ma Marino è davvero così o ci fa? Cioè, ci fa? Lo disegnano, no, perché questo tornare e dire oh che bella accoglienza, ma che è? Ma fa apposta? Io non veramente vorrei entrare nella psiche di Marino, di Ignazio Marino, ignoto Marino, ignaro Marino come qualcuno, o sottomarino, non lo so, vorrei capire che non lo so, ma nessuno lo capirà, Vladimir Luxure, nessuno capirà esattamente che cosa ha in testa, credo, Ma si campa meglio così, sai? Ah sì? Cioè sì, cioè se tu guardi uno magari ti fa le corna e dice ah guarda mi sta salutando, ciao, no, così campi meglio. Se vedi il mondo con le lenti rosa dell'ottimismo, del... Mi sembra... Io te l'ho detto, Ignazio Marino è come quei pupazzi di Barba Papà che cercano di buttarlo per terra, ma si rialza sempre in piedi. Ercolino sempre in piedi. Tu ce l'avevi, Silvia Brasca? Sì, Ercolino... con i formaggini si prende. Ce l'avevi proprio così, Ercolino sempre in piedi. Ce l'avevo. Con i formaggini. L'odore di gomma che quando si gonfia. Con i formaggini, questa nonna. Con i formaggini. Non me la ricordo. Comunque è intervenuto anche il commissario del PD a Roma, Orfini, che ha organizzato la manifestazione di ieri, ma non per parlare, ve lo facciamo sentire, sul tema Esposito e sul tema calcio. Orfini, tra l'altro, grande tifoso del Milan, va detto. Orfini, grande tifoso rossonero, niente, il dibattito è su Esposito. D'altra parte, chi è tifoso e chi è tifoso davvero come io sono, sa bene che tutto si può chiedere a un tifoso, ma non di rinnegare la propria fede calcistica. Eccolo lì, vabbè, il dibattito. Sì, però c'è, voglio dire, c'è una mediazione tra non rinnegare la propria fede calcistica e mettersi a cantare Roma merda, sì, sì, in trasmissione. Sì. Cioè, ci può essere. Ci sono delle sfumature che uno può cogliere. Ma io voglio subito chiedere a Vladimir Luxure e Silvia Brasca questa cosa che avviene a Bologna. E vabbè, qua già so tanto Vladimir da che parte sta, so già cosa ne pensa. Sapete che ha fatto il sindaco di Bologna, la leggo così da Repubblica: i moduli scolastici gay friendly, cioè se sei una coppia omosessuale, prima che arriveranno, com'è che le hanno chiamate adesso, Vladimir, com'è che si chiameranno, le unioni civili? Si chiamano formazioni sociali specifiche. Formazioni sociali specifiche. FSS. Viva l'Italia. Cioè uno si dice amore, invece di dire ci uniamo, dice ci formiamo. Sì. E quelli che non sono uniti, che sono sformati, deformi, che so. Ci formiamo in maniera socialmente specifica. Che anche l'acronimo FSS, facciamo un FSS, sai le dentiere che partono, facciamo un FSS. Vabbè, comunque a Bologna hanno fatto i moduli scolastici per gay friendly, cioè il sindaco ha detto siete una coppia omosessuale, cioè costituite di fatto una famiglia nel futuro dell'Italia che sarà per lui, ditecelo così, non so, non c'è bisogno per chiedere certificazioni, per le gite scolastiche, cioè accettiamo, ci portiamo avanti, Vladimir, ci portiamo avanti, capisci? No, in realtà si tratta di una decisione che tende a guardare la realtà per quella che è, e pensare che tra le possibilità che ci sono di persone che scrivono i propri figli in questo istituto, vuoi o non vuoi, sei d'accordo o non sei d'accordo, sì, e che ci siano dei genitori di coppie formate dello stesso sesso. Raga, è una realtà esistente. No, questo quindi... è vero, le famose famiglie arcobaleno, come si chiamano, no? C'è anche un'associazione, se non sbaglio. Esatto, e quindi io credo che uno non deve far pesare sui bambini e magari anche proprio i giudizi morali, per cui bisogna fare di tutto per far sentire questi ragazzi assolutamente accettati, un po' come all'inizio i figli dei divorziati, quando ci fu finalmente la legge sul divorzio. Sì. Quello che ti posso dire, però, quello che voglio dire davvero è che, nonostante tutto, che l'Italia, le formazioni sociali specifiche, è che la realtà dei fatti è che non ci sono episodi gravi di discriminazione nei confronti di questi bambini, cioè poi alla fine gli italiani sono meno peggio di quello che uno può pensare, perché poi davanti a questi bambini si tende a non far pesare, diciamo così, il fatto di essere figli di due genitori di sesso diverso o di sì, bisogna capire uguale. Però la politica, se arriverà, Silvia, secondo te ce la faranno in Parlamento? Speriamo, certo. Abbiamo col tono come dire, almeno chiudiamo anche la questione, visto che se ne parla. Ce lo dice la strada, ce lo dice la vita, ce lo dice la scuola, ce lo dice il collega, come dici tu, c'è una realtà. Se la politica non sa seguire questa realtà, siamo qua appunto a contare le settimane delle province, ma se non sappiamo vedere questa realtà, se non la sappiamo interpretare, poi dopo ovviamente bisogna interpretarla con una legge, dove siamo. Spero, è un tormentone, non voglio che diventi un tormentone, non deve diventare un tormentone, quello che è un diritto, quello che è un dato di fatto. Allora, intanto, prima di andare al traffico, una cosa che consolerà chi vive a Roma, e in questo caso Vladimir soprattutto. Mauro da Lugano sempre ci dice che a Zurigo, al confronto, visto che spesso è a Zurigo, al confronto Roma è una cloaca, eh? Ti senti di vivere una bella cloaca, cara Vladimir? Zurigo? No, dico, rispetto a Roma, Zurigo. Cioè, scusa, rispetto a Zurigo, Roma è una cloaca. No, ho invertito. Ti senti di vivere in una cloaca tu a Roma? No, vabbè, non bisogna... È vero, questo problema c'è, esiste, in parte è dovuto anche, diciamo così, a grandi gesti di città, ma per esempio ci sono anche, adesso non vorrei essere tacciata di essere razzista, però è la verità, si vedono ogni tanto anche zingari con questi ombrelli che aprono i cassonetti, buttano tutto per aria per cercare non so che cosa e poi lasciano tutto lì. Quindi un po', e poi c'è chi butta le cose per strada che non interessa niente. Ai semafori sembrano degli enormi posaceneri, sì, perché tutti buttano le sigarette fuori, quindi diciamo c'è un grosso gesto di inciviltà. Però diciamo, una cloaca. Paghiamo anche le tasse per pagare... cioè, si pagano le tasse sui rifiuti, quindi è anche un diritto nostro dover vedere magari più mezzi dell'AMA, più mezzi che raccolgono spazzatura rispetto a quelli che ci sono e che tra l'altro ha anche promesso Marino, perché Marino ha promesso 300 operatori ecologici in più, compreso gli operatori ecologici di quartiere, sempre un po' come una volta esistevano i poliziotti di quartiere, il mitico poliziotto di quartiere, e fine ha fatto il poliziotto di quartiere berlusconiano, è come la carta d'identità elettronica, quella veramente è un tormentone. Ma ragazzi, andiamo al traffico, ma chi è meglio? Idio Milan, manda al traffico in Italia, in Europa e nel mondo, debusciato. Caro Alessandro, a Roma è di norma vedere intorno ai cassanetti appena svuotati un mucchio di immondizia, perché il camion che svuota c'ha solo un uomo a bordo che aggancia il cassonetto, lo scarica e lo riposiziona, e solo se siamo fortunati nell'arco della giornata viene qualcuno a caricare tutta l'immondizia che gira attorno. Prima di parlare, prima di dire qualsiasi cosa, proviamo per una volta a valutare se quello che stiamo per dire ha più valore del nostro silenzio. Proviamo. Alessandro Mila, ciao, continua così, va avanti così, va bene così, bravo, bravo Alessandro, bravo, ti ripuito le notizie e noi ascoltiamo, bravo, va avanti così, va avanti così. Dai con queste notizie, Alessà, forza Milan, però se servo ognuno te chiamavi Roma era morto meglio. Vabbè, ho capito, ognuno ha il cognome che si merita. Cara Silvia Brasca, è tornata la nostra segreteria telefonica, come hai potuto sentire, c'era uno che mi incitava. Ho capito, si va avanti a dire le notizie, sì, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, avanti, bravo, bravo. Vabbè, vabbè, è contento che sono tornato, mettiamola così. Allora, in tutto questo, avete visto il Papa che è andato a farsi gli occhiali? Sì, da tutto a posto. Ho anche sentito l'intervista all'ottico che ancora. Sì, gli ha detto mi cambi però solo le lenti perché la montatura la tengo che voglio spendere poco, il Papa, È un altro che non si capisce, cioè adesso ogni gesto del Papa viene interpretato, come vedete, il Papa è un uomo come tutti, vuol rimarcare questo fatto, eccetera. Silvia, a te piace questa lettura, insomma, il Papa è uno. È così, è uno che ieri era lì vicino a Piazza del Popolo a cambiare le lenti degli occhiali come mia mamma, ecco. Non so Bertone gli occhiali che facesse fare, ecco. Cardinal Bertone gli occhiali. Insomma, una certa differenza la fa, cioè, ecco, questo invece è un gesto per cui probabilmente un vescovo, non so, sono quei gesti lì. Va bene, è lui, cioè, ecco, è una persona che non mette, che fa delle cose, probabilmente non ci ha pensato, penso che sia molto spontaneo. Non ci ha pensato, ma sì, ho capito, spontaneo, ma non è che il Papa può andare in giro per Roma pensando che questa cosa non venga notata, chiaramente in ogni cosa che faccia è un simbolo, no, ma è chiaro. Perché non farla? Avrebbe così voglia appunto di andare a mangiare una pizza, non lo può più fare, pare, almeno fa quello che può fare. Almeno cambiarsi le lenti, che deve fare? Ah, ti piace questo Papa, Vladimir? Ti piace? Adesso immagino la prossima volta vado al supermercato, un giorno prima o poi me lo rivedrò tra i banchi del supermercato che compreranno, non lo so, la frutta. Come va Vladimir? Pacca sulla spalla. Capito? No, cioè, si rischia di parlare più degli occhiali che della cosa del perdono sull'aborto, che è una cosa importantissima, e pare che se ne è parlato, poi abbiamo avuto altri problemi, pare che in Polonia i vescovi siano incazzati neri, perché perché qua mi hanno criticato, i canisti polacchi non sanno, cioè, sì, ma mi sono arrivate delle mail a dire voi stravolgete, cambiate, quando ho detto appunto questa cosa del perdono un paio di giorni fa, in realtà non è che cambia la dottrina, cioè non è che adesso per il Papa l'aborto non è un peccato, no, per la Chiesa rimane un peccato, però è estesa la possibilità di perdonare a tutti i preti. Ragazzi, i giubilei nascono anche per questo, cioè i giubilei sono grandi atti di misericordia e effettivamente non è che adesso sta dicendo che l'aborto viene accettato dalla Chiesa, dice intanto vi dovete pentire, donne che avete abortito, compreso purtroppo anche quelle che magari hanno abortito in seguito a una violenza sessuale, e poi una volta che vi siete pentiti noi vi perdoniamo, ma questo non è che vuol dire che adesso va bene abortire. No, ma infatti. Però per quello che riguarda, devo dire, il fatto che il Papa sia andato a Via del Babuino, è chiaro che è stato proprio un gesto voluto, perché il Papa ci avrà tutti i medici possibili e immaginabili, diciamo, che possono stare lì al Vaticano. Però credo che sia stato proprio un gesto voluto, quello di un Papa, sta continuando a fare, che vuole dimostrare. Adesso ognuno può essere libero di pensare se solo una questione mediatica di facciata o meno, comunque vuole dimostrare che è un Papa più vicino alla gente che vuole fare quello che fanno gli altri. Sì, sì, questo sì, questo sì. Però insomma, tra i tanti ritorni è tornato Ignazio Marino, è tornata anche Maria Elena Boschi, è tornata, e quindi qua non cambia nulla, dobbiamo sempre apprezzare, a capire. Ah, tra l'altro ho scoperto una cosa, ma io non lo sapevo, ma Maria Elena Boschi è stata fidanzata con il tesoriere del PD Bonifazi. Voi lo sapevate, Vladimir, lo sapevi? Momento gossip clamoroso. Qui. No, lo sinceramente sapevo. No, non lo sapevo. E l'ho scoperto, l'ha scritto chi? Mercoledì, mercoledì. Ah, beh, allora. E stavano anche a Formentera insieme. Quindi forse c'è anche, non so, un ritorno di fiamma. Che bello, immagino lei che diceva a lui tesoro. Insomma, comunque dobbiamo verificare se il livello delle C e delle insomma, le consonanti e le S sibilano ancora e suonano come piace a me. Maria Elena Boschi. La maggioranza c'è sempre stata in Parlamento e sì, anche adesso c'è la maggioranza che sostiene il governo che porterà avanti le riforme costituzionali. La maggioranza c'è. Io spero che ci sia anche il PD, tutto. Che dici, unito, Silvia? Secondo me noi lavoriamo, è sempre è tornata. Cioè, a livello delle CDS mi sembra non sia scalfito neanche di un. È tornata, avremo la foto quotidiana sul Corriere della Sera. Sì. Non c'era l'anno scorso, ho una foto della Boschi al giorno, sempre con i capelli, perché siamo un paese avanzato, quindi se non c'era una foto della Boschi non riposavamo bene. Mi sembra di sì. No, poi devo dire che mi ha fatto un po' sorridere su un quotidiano, adesso non so quale è più attendibile, se Chi o Libero, ma io ho visto una foto sul Libero della Boschi in una discoteca a Formentera e la cosa che c'era scritto, ecco, la Boschi in un famoso locale dove la gente va a rimorchiare, cioè praticamente ci sono ancora, la Boschi ci sono ancora, va in giro a rimorchiare, capito? Ma perché uno non, ma guarda, io dico vabbè ma perché è la politica, vabbè, ma esisteranno ancora sti locali dove si va proprio per rimorchiare, no? Uno andrà pure in locale nei locali. No, io sono negato. Io no, però tu, Vladimir, hai rimorchiato nei locali, cioè ci sono i locali dove si va a rimorchiare proprio. Ma qual è la tecnica? Dacci due consigli spicci per rimorchiare in 448. Entri in un locale? Entri in un locale, all'inizio te la tiri un po', no? Verso mezzanotte, l'una te la tiri un po'. Sì. Poi generalmente verso le 4 meno 20, prima della chiusura, cominciano i saldi, invece, quindi a pensare quello che c'è il momento Silvia Brasca, nel momento dei saldi io sto per svegliarmi per venire in redazione a lavorare, tu starai dormendo della quarta. No, guarda che mi devo andare presto anch'io, vedi questo. Leggere i giornali dalle 6, sono già leggere i giornali. Questa è la tecnica dei saldi, capito, cari ascoltatori? Vladimir Luxuria ci ha detto che la tecnica, insomma, più semplice, quella dei saldi. 4 meno 10 è l'orario, più o meno, Vladimir. 4 meno 20, 20 minuti prima in genere della chiusura. Diciamo che le maglie della selezione si allargano sempre di più. E lindo coio, va benissimo. Grazie a Vladimir Luxuria e Silvia Brasca, alla prossima. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, alle 7:17 minuti, pronti a leggere i giornali nel giorno in cui finisce la 122esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. È venerdì. Peter Bescapè, è venerdì, facci un bel sorriso, che è venerdì, forza, puoi imbracciare Grolla sotto braccio, puoi andartene per i monti, a partire da tra poco. Allora, oggi avremo tanti ospiti, parleremo di immigrazione ancora, parleremo con Vincenzo De Luca, governatore della Campania. parleremo di cinghiali. Sapete che ci sono, mi è incuriosito molto questa storia, che ci sono 1 milione di cinghiali circa in Italia. Ci sono, guardate che è un problema, ci sono molti agricoltori, molte associazioni di categoria che dicono stanno rovinando il raccolto, stanno facendo dei danni incredibili. E ovviamente le proposte solite, il sindaco di Ancona ha detto ci vorrebbe lanciafiamme per sterminarli, punto e basta. Avremo il sindaco di Ancona, avremo il presidente nazionale dell'ENPA, l'ente nazionale protezione animali, il dibattito c'è sempre su queste cose, avremo Mauro Corona, scrittore, che ci parlerà del suo rapporto, come sempre, con gli animali, con la natura. Questo dalle 9 alle 9.30, parleremo di tante cose, insomma, state con noi, intanto andiamo a leggere i giornali. È venerdì ed è il 4 settembre. I titoli: il Sole 24 Ore apre su Draghi, riarma il bazooka, le borse volano, frena l'euro. È il presidente della BCE che dice: se necessario, ci sarà un quantitative easing oltre il 2016. Poi l'immigrazione, come sempre, Corriere della Sera, l'Europa cambia passo su migranti, questo è il titolo di prima pagina, mentre per Repubblica, migranti, l'Europa si spacca, a Budapest la battaglia sui treni. Per La Stampa, profughi siriani, si muove l'Europa, quote obbligatorie e multe a chi rifiuta l'accoglienza. Libero ha un titolo a tutta pagina sulla foto del bambino morto e l'urlo è ipocriti. Gli ipocriti sono, per Libero, coloro che pubblicano l'immagine shock per far credere che a uccidere gli immigrati è chi si oppone all'accoglienza senza regole. La foto che cambia tutto è invece il titolo dell'Unità, si riferisce ovviamente alla foto di ieri del piccolo bambino morto in spiaggia in Turchia. Così Avvenire pubblica una serie di foto, tutte molto drammatiche, non certo forse drammatiche quanto quella del bambino. Il titolo di queste foto, una sorta di didascalia, è Gli invasori. Il binario morto è invece il titolo del Manifesto e ci sono scene di ordinaria follia in Ungheria con persone che tentano di attaccarsi ai binari, come dire, non ci muoviamo. Non ci muoviamo da qui. Mentre il Messaggero mette un'intervista al ministro Padoan che dice all'Europa: così taglieremo le tasse sulla casa. E l'apertura del Messaggero. Il Fatto Quotidiano invece si concentra sui partiti, i partiti costretti a dimagrire. Il Giornale, infine, immigrati, soldi e voti, Alfano difende il suo feudo. Alfano difende il CARA di Mineo, il centro rifugiati di Mineo, perché è il suo feudo elettorale, così accusa il Giornale. Voglio partire però da alcune notizie di cronaca, una mi ha colpito moltissimo, la trovate a pagina 23 del Corriere della Sera, ed è la vicenda della morte di una bracciante agricola, una morte che risale ad Andria, risale al 13 luglio scorso. Perché la notizia finisce sulle pagine del Corriere della Sera? Per la busta paga della bracciante. Sapete per quanto è morta, quanto era la busta paga quotidiana? 27 euro al giorno. Ed è da questa domanda, scrive Michelangelo Borrillo, che il marito di Paola Clemente, 49 anni, bracciante agricola, morta mentre lavorava nelle campagne di Andria in Puglia, è da questa domanda, proprio sulla busta paga, che parte la rabbia del marito, dicevo. Tra i mille interrogativi che mi pongo, scrive il marito al procuratore che sta indagando, tra i mille interrogativi che mi pongo e ai quali non riesco a dar risposta, ritengo che sia un'assurdità nel 2015 morire sul posto di lavoro per guadagnare a malapena 27 euro al giorno. Ecco, far luce su come ciò sia stato possibile è richiesta che Stefano Arcuri, il marito di Paola Clemente, ha rivolto al procuratore del Tribunale di Trani. 27 euro al giorno, che per i sindacati sono la metà di quanto in realtà era dovuto per il lavoro che stava facendo Paola. E su questa differenza si sta interrogando il magistrato, si stanno interrogando in procura, Trani, cercando di far luce sul gioco degli acconti, dei saldi contabilizzati in busta paga dalle agenzie interinali alle migliaia di braccianti che lavorano come la sfortunata donna tarantina. Paola, come si legge nella busta paga, nello scorso di novembre ha visto contabilizzare a saldo 257,38 euro. per le trattenute 1.489 euro lordi, 1.489 euro lordi, il saldo finale appunto 257 euro. Certo, è una storia su cui sta indagando la Procura di Trani, ma spesso, come dico io, dalle piccole storie, piccole nel senso che riguardano singole persone, in questo caso anche una storia tragica, si possono capire anche tante cose. La busta paga dell'abbracciante, Paola è morta per 27 euro al giorno, vi invito a leggerlo a pagina 23 del Corriere della Sera. Voglio poi andare a Bologna, dove subito si è scatenata la polemica, perché cosa ha deciso di fare il comune di Bologna, ed è il primo comune in Italia in tal senso. Ha deciso di introdurre il modulo di autocertificazione di famiglia omogenitoriale. Sapete che c'è il dibattito sulle unioni civili che ci saranno, anzi adesso non si chiamano più unioni civili, ma hanno deciso di chiamarle formazioni sociali specifiche. Ebbene, a Bologna hanno introdotto questo modulo. Con questo modulo le famiglie gay, le famiglie di persone dello stesso sesso che hanno dei figli, ci sono già tante situazioni in Italia, tante, insomma, alcune situazioni in Italia attualmente, possono firmare per le scuole questo modulo di autocertificazione di famiglia omogenitoriale, in modo che così potranno partecipare alle riunioni scolastiche anche papà e papà o mamma e mamma. Potranno ritirare i propri figli, potranno firmare autorizzazioni per mandarli alle gite scolastiche senza dover ottenere la delega del genitore biologico. Ovviamente, apriti cielo, ecco le polemiche. Bologna, la sfida di Merola, il sindaco di Bologna, questo è il titolo di Repubblica. Moduli scolastici gay friendly. Autocertificazione per facilitare la vita delle famiglie arcobaleno. Il centrodestra insorge, minaccia ricorsi. Il nuovo centrodestra dice questa è una iniziativa ideologica. Sul Corriere della Sera, l'autocertificazione per i genitori gay, ecco la svolta di Bologna, e le polemiche annesse. Attenzione, perché questo mi permette di saltare sul Messaggero, dove Anna Guaita racconta una storia, se volete, simile, ma con un esito ben più duro, che è avvenuta in Kentucky, negli Stati Uniti, dove, pensate, un'impiegata comunale, si chiama Kim Davis, è stata mandata in prigione dal giudice perché questa impiegata comunale si è rifiutata di trascrivere le nozze gay di due persone. Kentucky. Che succede? Che il Kentucky ha deciso, nella contea di Ashland è avvenuto, ha deciso di rendere legali il matrimoni tra coppie, tra persone dello stesso sesso. Però questa dipendente comunale, impiegata comunale, dice: la mia fede mi impedisce di registrare due persone dello stesso sesso come una coppia. Il giudice David Burning ha negato che la signora avesse questo diritto all'obiezione di coscienza per motivi religiosi e l'ha mandata in carcere, e la terrà in carcere, ha stabilito, finché questa impiegata comunale non accetterà di firmare la trascrizione di queste nozze gay. Succede in America, in Kentucky. Oh, vi voglio invece leggere l'intervista che Raffaele Cantone, magistrato e capo dell'anticorruzione, ha rilasciato qualche dichiarazione al Foglio. La firma è del direttore Claudio Cerasa. Il titolo è "Un Cantone shock sulla magistratura". Effettivamente sono dichiarazioni molto molto forti. Si parlava del libro di Piero Toni, che è l'ex procuratore di Firenze, che ha scritto un libro andando in pensione, molto, il procuratore di Prato, che ha scritto un libro dal titolo "Io non posso tacere", e denunciando le vergogne e gli orrori della gogna mediatica spesso nel mondo della giustizia. Ebbene, a parlare di questo libro c'era anche Raffaele Cantone, che poi si è lasciato andare a dichiarazioni di questo tipo. Le correnti della magistratura sono un cancro. noi siamo l'ultima categoria che fa carriera in modo automatico senza che vi siano demeriti. Il sorteggio non mi convince perché sarebbe una grande sconfitta, darebbe l'idea che la magistratura non sia sostanzialmente modificabile. Sono però convinto della diagnosi che le correnti siano diventate un cancro della magistratura. E ancora, sempre Cantone, il CSM, cioè l'organo di autogoverno dei giudici, credo che sia diventato un centro di potere di cui si fa fatica ad accettare il ruolo. E non ho timore a dire che su molte cose credo che il collega si sia perfino trattenuto, cioè Piero Toni, perché per molti aspetti le cose sono anche peggiori. E ancora l'ANM, cioè il sindacato dei magistrati. Non mi sono mai cancellato dal sindacato, ma confesso che faccio fatica a pensare di essere difeso da un soggetto che si batte per tenere il numero di ferie a 45 giorni. E queste sono alcune delle frasi shock, come scrive il Foglio, un Cantone shock sulla magistratura, le correnti un cancro, non mi piace l'utilizzo della giustizia come lotta di classe che si fa in magistratura democratica, non mi sento rappresentato dal sindacato, il CSM centro di potere vuoto. Eccolo qui Raffaele Cantone in prima pagina del Foglio. Ma siamo al momento del premio Mani sul volante, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata riguarda peraltro una vicenda giudiziaria, e Brunella Bolloli che la racconta. Il boss scarcerato prima aveva fatto i compiti. Sono sul Libero a pagina 17, era tra i 30 latitanti più ricercati, è stato arrestato nel 2009, è stato condannato. È considerato un potentissimo boss dell'andrangheta di Reggio Calabria, si chiama Paolo Rosario De Stefano ed è stato scarcerato prima del termine della pena perché per meriti universitari ha sostenuto 14 esami e dunque via, fuori. Libero. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Oh mia bella Lino Milan, che te brille de luta. Alessandro Milan, il pauscia dell'informazione. Oh mia bella Madonnina, che te brille de luta. Ci siamo, cominciano ad arrivare qualche sigla nei vari dialetti d'Italia, sì? Bene, allo 02-4652-4492 registratela, noi la mandiamo in onda. Buon Lorenzo Nespoli ovviamente dice anche io però molte non le capisco, lui è un brianzolo, quindi se magari ci mandate in dialetto dal Molise ci mandate, no, non capiamo, quindi fate così, ce la registrate e ci spiegate anche poi in italiano una traduzione, perché almeno agevolata il compito del nostro Lorenzo Nespoli che dice io disperato, io però non le capisco quelle che arrivano, vabbè. Allora, l'immigrazione è ancora un tema preponderante sui giornali. Io devo dire, ieri mi ha colpito, e ne abbiamo parlato, la pubblicazione, sapete, della foto del bimbo morto in Turchia. Tra l'altro c'è da dire anche questo, non è che è morto solo lui di quella famiglia, è morto anche il fratellino di 2 anni più grande e la madre nello stesso naufragio. Ma sapevo che ugualmente, come mi ha colpito la foto, sapevo che mi avrebbe colpito invece negativamente il dibattito che ne sarebbe scaturito e che certamente è scaturito e che oggi abbonda su tutti i giornali con anche una buona dose di melassa sparsa qua e là. Segnalo solo nella valanga di commenti, reazioni, retorica che esonda un'intervista interessante a chi? Allo zio, e cioè il fratello del papà di questi bambini. Fabio Tonacci lo intervista per Repubblica, tra l'altro dice non ho neanche visto la foto di mio nipote, al che se la fa mandare dal giornalista di Repubblica e dopo 20 minuti commenta dicendo tra le lacrime, come potete capire, mostratela a tutto il mondo, mostrate l'immagine di mio nipote a tutti coloro che possono vederla, perché tutti devono vergognarsi, e tutto ciò che riguarda chi scappa da guerre e persecuzioni, tutto ciò che sia utile a testimoniare quel che stanno sopportando i rifugiati in questi anni, va fatto conoscere alla gente il più possibile, dice così lo zio di questi due bambini a questo punto morti insieme alla madre. C'è anche un'altra foto che oggi circola sui giornali, è invece la disperazione del padre Abdullah Kurdi, in lacrime dopo la morte, dopo aver perso lui due figli e la moglie, e con il sogno di andare in Canada, e invece la tristezza di dover tornare a Kobane, dove dice lì seppellirò e a questo punto rimarrò con loro, non ho più nessuna voglia di partire. Il tema dell'immigrazione riguarda soprattutto la decisione e l'annuncio da parte di Germania e Francia di avere trovato una sorta di accordo, almeno politico, poi andrà tutto messo nero su bianco a livello di Unione Europea, su che cosa? Sì alle quote dei migranti. Merkel e Hollande, sì alle quote dei migranti, questo è il titolo di pagina 5 del Corriere della Sera, la svolta del presidente francese d'intesa con la cancelliera tedesca, siamo pronti a redistribuire 100.000 profughi. Juncker, capo della Commissione Europea, vorrebbe arrivare fino a 160.000, e tra l'altro anche sull'onda di questa foto, delle polemiche che ci sono state, c'è la prima apertura della Gran Bretagna. La Gran Bretagna, con Cameron che ha sempre detto no ai migranti, è pronta a dire sì ai siriani, cioè attenzione, queste sono cose ben importanti da dire, ai siriani, cioè non a tutti, ma a coloro che fuggono dalla guerra in Siria. Cameron su questo è pronto a fare delle aperture. Così come racconta il secondo giorno consecutivo Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, si sta mettendo a punto l'idea, si diceva ieri, delle sanzioni. E cioè i tecnici in Europa sono al lavoro per stabilire i metodi di calcolo delle sanzioni dei paesi che si chiameranno fuori dalla distribuzione. Una sorta di ammenda molto onerosa per gli stati che non parteciperanno al programma di redistribuzione delle quote. So che è brutto dirlo, trattarlo così, come se fossero delle merci, ma per fare capire, la redistribuzione dei migranti paese per paese. Chi rifiuta, multe onerose. In tutto questo la polemica invece in Italia è anche concentrata sul centro di Mineo in provincia di Catania, dove oggi, racconta Libero, si presenterà, e non è la prima volta, è atteso l'arrivo di Matteo Salvini, leader della Lega. Pagina 5, Salvini va a Mineo e il vescovo lo respinge, è tutta colpa vostra, ennesimo scontro tra il leader della Lega e un esponente della Chiesa. Dice il vescovo di Caltagirone, il centro di Mineo l'ha voluto Maroni. Che cosa viene a dire Salvini? Eccolo lì, l'ennesima polemica politica. Vabbè, lasciamo il tema immigrazione, veniamo all'Italia, dove il ministro Padoan si distingue per due interviste oggi. Viene intervistato dal Giorno, da Alessia Gozzi, a pagina 3 trovate l'intervista, viene intervistato dal Messaggero, ed è proprio l'intervista del Messaggero che mette il titolo di prima pagina, Padoan all'Europa, così taglieremo le tasse sulla casa, che vado a leggere alcuni stralci, l'intervista di Osvaldo De Paolini. Dice Padoan, così taglieremo le tasse, l'Unione Europea non potrà dire di no. Con la Commissione il confronto si basa sulla strategia, al di là dei numeri, la strategia indicata nel documento di economia e finanza è confermata. Deficit ancora in calo, quindi debito in calo dal 2016. Dunque gli italiani, chiede il Messaggero, possono davvero fare festa, ministro, dall'anno prossimo stop definitivo delle tasse sulla prima casa? Sì, risponde Padoan, nell'ambito della strategia che stiamo perseguendo è una scelta che ha una logica precisa, soprattutto ora che nel settore delle costruzioni ci sono segni di ripresa dell'occupazione dopo 19 trimestri di caduta. Vi ha colti di sorpresa l'accelerazione del PIL, che ora sembra proiettato verso una crescita dello 0,9-1% contro la previsione dello 0,7%? Il dato della crescita non ci ha sorpresi, eravamo coscienti di aver fatto una previsione prudente, risponde Padoan, che poi difende La crescita legata anche alla domanda interna grazie agli 80 euro, nonostante lo stupore del messaggero che dice non vorrà dirci che è merito degli 80 euro in busta paga se cresce la domanda interna. Certamente, invece, risponde Padoan, gli 80 euro hanno contribuito non solo ad aumentare il reddito disponibile, ma anche a innescare il circolo virtuoso della fiducia tra i consumatori, mentre è netta la percezione che le riforme hanno cominciato a produrre effetti concreti. Non dà però numeri sulla legge di stabilità. Quando il ministro dell'economia fornisce un numero, di fatto impegna il bilancio dello Stato. Avrete i numeri quando saremo certi delle grandezze in gioco. Così Padoan sul Messaggero, potete trovare tutta l'intervista a pagina 2. Mentre in Europa fa discutere certamente Draghi, che dice il quantitative easing può andare oltre il 2016. È una risposta anche a quello che sta succedendo in Cina? Lo chiedo a Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Ciao Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma Angelino lo sa che tu dici quantitative easing? Sì, no, penso, no, di sì. Si è pronunciato ancora. Se è all'ascolto, sì, sì. Guarda, ti spieghiamo tutta la vicenda delle dichiarazioni ieri, delle decisioni della Banca Centrale, nelle pagine 2 e 3 di oggi del Sole 24 Ore. È una buona notizia questo QE, quantitative easing, lo dico a beneficio di Angelino, che può andare anche oltre il settembre 2016, può anche aumentare nel volume degli acquisti, però va anche considerato quello che ha detto sempre il governatore: guardate che la ripresa è più debole di quello che ci aspettavamo. Quindi leggi con attenzione le nostre pagine che ti spiegano, ti illustrano tutto. Poi oggi sai che è una giornata importantina, sì, importantina, non usare l'altro aggettivo, no. Però è importantina perché ci aspettiamo il completamento del Jobs Act, si può anche dire riforma del lavoro. Mancano 4 decreti che devono concludere appunto l'iter di approvazione. Oggi li aspettiamo il loro varo al Consiglio dei Ministri, così come, ma lo puoi leggere nelle pagine di Norme e Tributi, oggi dovrebbero essere esaminati 3 decreti della riforma fiscale, tra cui uno che riguarda l'anatocismo, che non è una parola inglese, però fa impressione lo stesso, secondo me, no? Abbastanza. Non trovi che, ecco. Anatocismo, non so, non ho assolutamente idea di come si dica in inglese. In italiano non esiste, forse, in inglese, non esiste. Ma non credo, no, esiste. Del parere che esiste. Ti vorrei anche segnalare che fa pure impressione che ci siano delle aziende ospedaliere che ti pagano il credito a 1450 giorni. Ho fatto un conticino, fanno 3,97 anni, cioè insomma 4 anni. E lo segnaliamo perché sono ripartite quelle lentezze nel pagamento dei crediti alle imprese, specialmente nella sanità. Trovi tutto, te lo dice Roberto Turno sul Sole 24 Ore di oggi. Così come sì, vorrei segnalare che verrà esaminato oggi dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge per attuare misure più severe contro le frodi sportive. Speriamo che non esaminino alla moviola anche il gol con cui ieri ci siamo imposti sui maltesi. Ma non credo rigore per il Carpi, ma sono cose del passato, sono cose veramente. E volevo buttarti in clima derby. Se apriamo questo scatolone, abbiamo motivi di lamentela un po' con tutta esatto. Ma lasciamo stare, ci penseremo settimana prossima. Lo sport naturalmente andrà in crescita. Settimana prossima, per cui già ti faccio tanti auguri. Prego. Ah, ma guarda, io vi auguro di aprire un ciclo, anzi, lo state già aprendo. Senti, ti voglio dire solo buona domenica. Anche a te. Molte altre cose sono sul Sole 24 Ore, ma il tempo è tiranno e quindi solo una parola. Traffico! Alessandro Milan, El Mona dell'informazione. Va bene, giustamente. Questo l'abbiamo capito più. Questo Lorenzo Nespoli l'hai capito? Sì, questo era abbastanza chiaro. Va bene, dal Veneto. Grazie molte, cari ascoltatori. Siamo qui ancora a leggere i giornali. Allora, è tornato Ignazio Marino, è tornato il sindaco di Roma dalle vacanze negli Stati Uniti, che hanno portato e si sono accompagnate con grandi polemiche. Il ritorno di Marino, ora il test con Gabrielli. Questo è il titolo del Corriere della Sera, che ha fatto Ignazio Marino. È andata alla manifestazione che è stata organizzata dal segretario del il commissario del PD a Roma, Orfini, anche il presidente del partito. E lì l'accoglienza è stata mista, diciamo, c'è chi sosteneva il sindaco, c'è chi, come racconta il Corriere con Goffredo Buccini a pagina 12, gli ha anche lanciato un po' di monete da 5 centesimi, c'è chi gli ha lanciato fiori, chi monete, chi applaudiva e chi fischiava. E lui, circondato dal servizio d'ordine, come ha accolto tutto ciò? Perché Ignazio Marino, sapete, adotta la tattica del far finta che va tutto bene. Ha accolto tutto ciò con: oh, che bella accoglienza. Questo è stato il commento, racconta Buccini a pagina 12 nel racconto di questa giornata. Gli lanciano fiori, Ignazio, Ignazio, gli tirano le monetine, buffone, buffone. Lui mormora enigmatico: bella accoglienza. Come al solito non si capisce se stia parlando dalla luna o dalla terra, mentre entra sballottato tra i carabinieri nella piazza Don Bosco espugnata dai Casa Monica il 20 agosto, e che adesso dovrebbe essere la sua piazza, la piazza del riscatto, in questo pomeriggio fortemente voluto dal PD romano. Ma anche oggi, anche qui, anche col jet lag del volo dall'America ad attutirgli le difese, il fardello di 19 giorni di ferie da farsi perdonare, Marino era e resta sotto tutela, sempre con un cordone di uniformi, un vetro blindato, un prefetto protettore, una coltre di equivoci tra sé e i romani. Non è un sindaco di pancia, che pretendete, sbuffano i suoi. Ma se non era un marziano, ora stava in galera con quelli di Mafia Capitale, sussurrano. Vero, ma da Marte bisognerebbe pur scendere, prima o poi. Poi racconta Buccini della prima giunta, quella in cui ha parlato agli assessori, parlando del punto zero. Il governo ha riconosciuto che con la mafia non c'entriamo, ma da adesso niente alibi. Soprattutto basta parole in libertà, facciamo squadra. E giurano che a queste parole guardasse in particolare l'assessore Esposito, quello che si è lanciato qui alla Zanzara nelle dichiarazioni. Da giovane, da tifoso, urlavo Roma merda allo stadio. Pare che Marino non l'abbia presa benissimo, non avrà preso neanche molto bene il fatto, come racconta Libero, di essere indagato. È indagato per cosa? Per la famosa frase, per la quale poi peraltro chiese scusa, quando disse la destra perché non torna nelle fogne da cui proviene. E prendendo molto sul serio questa frase, due esponenti, già un ex consigliere comunale indipendente di destra, Fabio Sabbatani Schiuma, e un'altra persona hanno querelato per diffamazione Ignazio Marino. Ed ecco che qui c'è la querela. Bentornato Marino, sei indagato, accusa per diffamazione dopo che nel giugno scorso aveva invitato i politici di destra a tornare nelle fogne. Ne scrive Libero. Certo, non è una vicenda gravissima, insomma, però c'è questa querela per diffamazione. Forse vince oggi nei commenti caustici Mattia Feltri. Pagina 10 della Stampa. Commovente episodio ieri in Campidoglio. Il sindaco Marino è tornato in comune, ma lo ha riconosciuto solo il cane Argo. Non male, eh? Non male. Tra l'altro, se eravate per strada a Roma ieri, potevate incrociare il sindaco Marino, e questo è abbastanza, può capitare in una delle manifestazioni. Certo, è un po' più raro poter incrociare il Papa. E però il Papa, ed è finito su tutti i giornali, ieri Papa Francesco è entrato da un ottico. Doveva cambiarsi le lenti, doveva rifarsi le lenti il Papa. Soprattutto questo, doveva rifarsi le lenti, non la montatura, perché non voglio spendere più di tanto, e quindi ha chiesto di rifarsi solo le lenti. Il Papa entra dall'ottico, vorrei spendere poco. Il centro di Roma in tilt, lo facciamo vedere anche in diretta su Periscope, con cui siamo collegati da questo momento. Eccolo qui, il Papa che entra dall'ottico, ovviamente prova gli occhiali, e tutti a chiedersi dell'ennesimo gesto da uomo di strada, da uomo come tutti, del Papa che si è mischiato in mezzo alla folla in via del Babuino. Oh, voglio raccontarvi qualcosa dei partiti. Sapete che Renzi trionfalmente ha detto che il PD ha raccolto molti soldi, 5 milioni e mezzo dal 2 per 1000 degli italiani. C'è questo strumento per cui gli italiani possono dare il 2 per 1000 ai partiti. e dunque sorpresa positiva. Soldi ai partiti, così il PD si è mosso sul territorio, questo è il titolo del Corriere della Sera. Eccolo qui, lo trovate a pagina 10, il tesoriere Bonifazi ha detto i 5 milioni e mezzo raccolti sono frutto di un lavoro a tappeto con militanti e strutture locali. Se il PD ride da questo punto di vista, non ride certamente Forza Italia, perché il PD ha raccolto 5 milioni e mezzo di euro dal 2 per 1000. Forza Italia racconta Repubblica, pagina 13. Senza pace, disastroso 2 per 1000, meno di mezzo milione di euro raccolti. Quindi 5 milioni dal PD, 5 milioni e più, circa solo 500 mila euro da Forza Italia. E Tommaso Ciriaco, che ne scrive a pagina 13, di questa raccolta molto fiacca per il partito di Silvio Berlusconi. Una notizia invece che riguarda un'importante società italiana, vale a dire le Ferrovie dello Stato, la trovate su Il Fatto Quotidiano. È una notizia interessante, è un'indiscrezione, perché racconta Giorgio Meletti: stop alla privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, un renziano verso il vertice. Questo avrebbe deciso il premier Matteo Renzi, questo almeno secondo Il Fatto Quotidiano. La privatizzazione delle ferrovie esce dalla fitta agenda di Renzi, al suo posto entra una voce più attinente all'inclinazione del premier, la nomina di un nuovo vertice. L'amministratore delegato Michele Elia, che è dato in uscita già da 3 mesi, potrebbe lasciare presto il posto a Renato Mazzoncini, che è attualmente amministratore delegato di Bus Italia, controllate dalle Ferrovie dello Stato. Perché è dato come renziano? Perché Mazzoncini, nato a Brescia 46 anni fa, dispone dei giusti quarti di fiorentinità, perché nel 2012 fu lui a fare con Renzi, allora sindaco di Firenze, l'accordo per la cosiddetta privatizzazione dell'azienda tranviaria fiorentina. Questo è il legame. Va bene, ma siamo quasi in chiusura. Cito solo la Gazzetta dello Sport, eccolo qua, perché l'Italia ha vinto, non l'ho vista, ma a fatica. L'Italia in braccio a Pellè. Pellè ha segnato il gol decisivo, mi sembra di capire anche un po' contestato con una mano, ma ripeto, non l'ho visto. E siamo alla carta costa. Ho lasciato qui la politica, ebbene sì. Una pagina di Libero sul patto del Nazareno che rinasce a Formentera. Perché a Formentera, dove è stata immortalata il ministro Maria Elena Boschi, era in compagnia la Boschi di chi? Con un amico avvocato. E chi è questo amico avvocato, secondo Libero? L'amico avvocato è il figlio di un esponente di Forza Italia, presidente della Fondazione AN, ed ecco dunque che a Formentera, secondo Libero, rinasce il patto del Nazareno. Ma chi se ne frega! Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Ciao Milan, che te porti lo via fuoco. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, fai tutto tu. Allora, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:17 minuti, cari ascoltatori, vi do subito il numero verde per intervenire in diretta, iniziamo a parlare di immigrazione, 800 24 00 24. Io l'ho già detto in rassegna stampa, ieri mi ha molto colpito, come ha colpito mezzo mondo, la foto del bambino morto sulla spiaggia in Turchia. Tra l'altro, detto per inciso, non ci sono foto, ma in quello stesso naufragio è morto pure il fratello di 2 anni più grande, per la verità, di quel bambino, e la loro madre. Questo è il dato di fatto, come sono morte moltissime altre persone in questi anni. Sapevo già che, però, come ha colpito quella foto, mi avrebbe urtato il successivo dibattito che oggi trovate abbondantemente spalmato su tutti i giornali, con fiumi di melassa e folate di abbondante retorica. Pensare che una foto possa cambiare il corso della storia, secondo me, è illusione. Non sottovaluto assolutamente il potere e l'importanza delle immagini, ma pensare che, ne so, che per quella foto qualcuno di importante si metta d'accordo per decidere di fermare la guerra in Siria, beh, dai, insomma, è abbastanza ridicolo a mio modo di vedere pensare questo. Tra 5 giorni il ricordo, il dolore sarà tutto più sfumato e già ci ricorderemo un po' meno di questa foto. Comunque non sottovaluto l'importanza delle immagini, per questo ho voluto chiamare tra gli ospiti da cui voglio partire un regista che ha pubblicato, ha fatto un documentario molto molto bello nel 2012, si intitola Mare Chiuso e lo ha fatto insieme a Stefano Liberti. Si tratta di Andrea Segre, che saluto. Buongiorno Segre, benvenuto. Buongiorno a voi. Anche perché Andrea Segre è il promotore di un'iniziativa che riguarderà il Festival del cinema di Venezia, sarà l'11 settembre. Come l'avete chiamata, Segre? Ci sono tra i promotori. Tra i promotori. Unico, ovviamente. È la marcia delle donne e degli uomini scalzi. La marcia delle donne e degli uomini scalzi, cioè voi marcerete, voi, ci sono tante persone che hanno aderito, scalzi per le vie di Venezia, perché? Perché camminare scalzi significa dare soprattutto rispetto e centralità a quello che è il cuore poi profondo della scienza della migrazione, cioè quello di mettere il proprio corpo e quello dei propri figli a rischio per cercare di raggiungere un luogo più sicuro o migliore, o in cui poter sperare un futuro migliore. Questo è quello che fanno le centinaia e migliaia di persone che poi a volte leggiamo come invasori, in realtà stanno mettendo in discussione totalmente la propria vita. E come, allora, come spesso, come spesso si è visto purtroppo in alcune di queste scene. Sono molto d'accordo con quello che dicevi, scusa, ti ho interrotto, che poi dopo le immagini passano. Allora forse unirsi è un'esperienza anche corporea di camminare insieme in questo modo, invitando anche i migranti a farlo con noi, è un modo per far sedimentare di più la coscienza di quello che sta succedendo in quest'epoca. So che alcuni registi, a partire da Marco Bellocchio, ma anche qualche giornalista, Gad Lerner, Lucia Annunziata, Roberto Saviano, Tony Servillo, grande attore, e altri, Elio Germano, Valerio Mastandrea, hanno già aderito. Sai, Segre, che per molti, oggi Libero, per esempio, è un giornale certo non tenero, su questi temi la definisce una pagliacciata, questa sfilata in piedi scalzi. Ma non avevo dubbi che la cosa potesse generare reazioni di questo tipo, ma quello che sta succedendo è che centinaia di persone, al di là dei nomi che hanno lanciato questa cosa, ma quello che è importante è che vengano a camminare i cittadini italiani e non le persone che ogni giorno in un territorio complesso come il Veneto lavorano con l'accoglienza, conoscono le storie di migrazioni e al di là dei titoli e degli slogan lavorano quotidianamente per affrontare quello che è un cambiamento epocale rispetto al quale gli slogan servono a ben poco. C'è da dire che allora Andrea Segre, ripeto, ha fatto questo documentario Mare Chiuso, era l'epoca dei respingimenti, no? Respingimenti della Libia. Voi avete testimoniato con Stefano Liberti che cosa vuol dire fare quel viaggio nel Mediterraneo, che poi lo vediamo raccontato sui giornali, vederlo per immagini è una cosa certamente più impattante. Ci sono ancora tante persone che fanno questo viaggio. Qual è la cosa che colpisce di più delle testimonianze che avete raccolto di chi si butta per mare per cercare un futuro migliore? Ma quel documentario credo che sia importante nel senso che racconta chiaramente quello che l'Europa ha cercato, cerca ancora di fare, cioè quello di fermare le migrazioni al confine e mandarle dall'altra parte senza occuparsi di quello che poi succede dall'altra parte. Cioè la grande crescita di flusso migratorio di questi mesi è legato da una parte chiaramente alla crisi del Medio Oriente, alla Siria, rispetto alla quale non ci sono i corridoi umanitari che ci dovrebbero essere, quindi le persone rischiano in questo modo la propria vita per raggiungere salvezza scappando da una guerra, ma dall'altra parte è legata al fatto che per 10-15 anni abbiamo cercato di costruire una chiusura ermetica che tale non è stata, continuando a dire che li avremmo fermati senza occuparsi di quello che succedeva appena dietro al confine. Sì. Mare Chiuso racconta questo, racconta di persone che una volta respinte non sono tornate a casa perché non c'è una casa dove tornare. Sì, sono spesso rimasta in Libia e sono state lì, okay, hanno fatto molti. Hanno riaperto un passaggio da qualche parte. Una brutta fine. Tra l'altro, sì, scusa Andrea se ti fermo, però la linea telefonica è anche un po' disturbata, vediamo se riusciamo a migliorarla. Intanto io voglio presentare un altro ospite, è un sindaco. Si tratta del sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, che saluto. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Che è salito agli onori della cronaca. Perché? Perché si è scritto così: un sindaco che peraltro è musulmano, perché credo che lei si sia convertito, mi corregga se sbaglio. Corretto, sì. Corretto. Un sindaco musulmano che però rifiuta l'accoglienza. Nel senso, beh, ce la spieghi intanto, rifiuta che vuol dire? Che lei non vuole migranti sul suo territorio? Sì, io penso che l'Argentario non sia adatto a questa accoglienza. Del resto la mia posizione è molto, diciamo, molto limitata al mio territorio. Io non parlo come persona, parlo come sindaco. Io penso che l'Argentario già contribuisca in qualche modo dando 6 milioni di patto di solidarietà all'Italia, perché ogni anno noi dobbiamo versare questi soldi, però poi sul nostro territorio penso che proprio non sia il caso di prenderli. Quindi alla domanda se io sul mio territorio voglio questi migranti, io rispondo no, grazie. No, no, grazie. Però sindaco, questo è un po' un atteggiamento che molti sindaci hanno, non è che non sto dicendo, molti la pensano come lei, altri invece dicono no, ci vuole più uno sforzo di solidarietà. È un atteggiamento molto da dire no, nel mio cortile no, come si suol dire, mutuando l'espressione inglese. Sì, certamente, io lo so che è un po' come il discorso dei, senza aver fatto paragoni molto brutti, ma nessuno vuole il cassonetto dell'immondizia vicino a casa sua, nessuno vuole la centrale nucleare, io sono ingegnere nucleare. Lei infatti è un ingegnere, lei da ingegnere nucleare magari la vorrebbe una centrale nucleare. No, da ingegnere nucleare come sindaco non la vorrei, però non vorrei neanche una centrale al carbone, vorrei niente. Poi chiaramente vorrei l'energia a basso costo, vorrei tante cose. Purtroppo sono delle contraddizioni che tutte le persone hanno. Però è interessante questa cosa, cioè lei in linea di principio, che è ingegnere nucleare oltre che sindaco, una centrale nucleare non è contrario, in linea di principio immagino. Vicino al mio territorio sono contrario. Certo. No, certo, quello volevo dire, non è contrario se la fanno in Francia, ma è contrario se la fanno nel suo territorio, è la stessa questione. Lo so, perché io sono stato eletto sindaco, quindi lei mi sta intervistando non come Cerulli Arturo cittadino o ingegnere, mi sta intervistando come sindaco del mio territorio, dove per esempio io ho più di una lista di oltre 100 persone che da tanto tempo aspettano una casa popolare, dove c'è tanta gente che aspetta di lavorare perché a casa non c'è soldi, e magari potremmo mettere la foto di quel bambino dell'Argentario che è lì che non c'ha da mangiare e quindi che foto facciamo vedere? Ognuno ha le sue foto, cioè non è che la foto può cambiare l'atteggiamento e l'approccio, insomma ognuno ha le foto che vuole. Io ho le foto dei miei concittadini che sono in attesa di casa popolare, come gli spiego? Momento, ora c'è prima queste quattro persone, le piccine sono scappate, piccinine qui e piccine là. È un discorso molto pragmatico che infatti le ha fatto guadagnare, diciamo, qualche articolo sui giornali, cioè l'approccio molto pragmatico di dire io devo pensare ai miei concittadini. Queste immagini la possono colpire, ma voglio dire non deve lei sindaco del comune di Monte Argentario rispondere per questa emergenza. Andrea Segre, sono atteggiamenti che per carità si notano in Italia, sono da condannare, Andrea, di principio? Il sindaco dice io non li voglio qui sul mio territorio perché ho altre priorità. Io credo che la risposta più sensata sia quella di riuscire a costruire una programmazione dell'accoglienza senza essere sempre situati all'emergenza. Ci sono tantissimi comuni che non partecipano ai progetti SPRAR, che sono i progetti nazionali dei servizi di protezione richiedenti asilo e rifugiati, che sono dei progetti che hanno dei finanziamenti europei e nazionali che permettono di affrontare l'accoglienza creando anche lavoro, creando anche competenze nel territorio, dando la possibilità magari a ragazzi giovani disoccupati di lavorare dentro quei progetti. tanti comuni non lo fanno perché hanno paura che dopo elettoralmente a livello di visibilità questa cosa si faccia. Beh, chiaro, è chiaro che anche è un tema molto sensibile dal punto di vista dal punto di vista elettorale. La distinzione tra il togliere il lavoro e il togliere le case e l'accoglienza, le due cose possono andare in sinergia, questo è quello che dico. Sindaco, lei vede una contraddizione? Io sono al secondo mandato, quindi io non potrò essere rieletto. Ne ho intenzione di fare chissà quale carriera politica, visto che ormai sono anche grande di età. E quindi, francamente, non è che lo faccio per un discorso di voti, insomma, non è una questione di opportunismo per magari prendere qualche consenso in più. Anche perché lei è di una lista civica, lei è di che partito fa parte? Lista civica, però mi dica centrodestra, centrosinistra. Sì, sicuramente centrodestra, vicino all'NCD qualche tempo fa, ora sempre. Ma comunque la nostra giunta è veramente come l'NCD di Alfano, ma se la sente Alfano? Ma se la sente Alfano? Ma io a me non mi importa, io continuo a dire. Ma come, ma Alfano, il ministro dell'interno che deve cercare i posti, e lei è del partito di Alfano e gli dice che non vuole, che non gliene frega niente. Me ne posso che ha di meno, come si dice. Noi, guardi, io da piccino avevo un sogno, fare il sindaco di Monte Argentario, non so nemmeno perché, forse perché c'era Susanna Agnelli a quell'epoca sindaco. Mi piaceva così tanto che dicevo da grande voglio fare il sindaco. Ecco, questo sogno poi l'ho maturato dopo decine e decine d'anni, facendo un percorso all'estero. Io ho lavorato tanti anni nei paesi arabi, quindi insomma conosco abbastanza queste cose. Ho sposato una musulmana, quindi una musulmana indonesiana. Sì. Quindi, come spesso dico, io a casa mia già ospito due 25, perché c'è moglie, due figli. La mettiamo come battuta, è chiaro. È una battuta. Però quindi di fronte al dramma dei paesi arabi, di fronte al dramma della Siria, della guerra in Siria, lei dice: oh, che io devo fare? Io dico, io l'altro giorno mi ha intervistato, penso un po', una giornalista australiana, no? Che più o meno faceva le stesse domande, magari in inglese. Però in inglese, io gli ho detto: ma scusa un po', ma se per caso dei balinesi o di gente che sta in Kalimantan, che è vicina a voi australiani, prende i canotti e incomincia a venire verso l'Australia. Lì in Australia no way, no, lì li cacciano. Il primo canotto lo affondano, ora io non voglio affondare nessuno, però bisogna stare attenti e cercare veramente, capisco che è facile a dirsi e difficile a farsi, ma bisogna fare in modo che questa gente non parte. Io vedo gli Stati Ho capito, Uniti, scusi, non parte, però nessuno fa niente per fermare la guerra in Siria. Beh, quelli partono, no, molti. Ora può mai essere un sindaco di Monte Argentario, no, o anche lo Stato italiano. Rendiamoci conto che noi siamo uno statarello piccino, che non contiamo niente, questa è la realtà. Poi continuiamo a pensare che noi siamo il paese più bello del mondo, più forte del mondo, più tutto del mondo. Nella realtà non ci considera nessuno. E allora ecco, dico, il problema, se gli Stati Uniti avessero questo problema, se qualcuno attraversasse l'Atlantico e andassi a sbarcare da loro, scommette che qualcosa farebbero di più concreto, insomma. Sì. E il problema non li tocca, e allora lascia a noi risolvere il problema. Poi lì dice, lascia a noi, e a maggior ragione non devo essere io sindaco di Monte Argentario a dover risolvere. Io penso che più noi accogliamo più la gente che giustamente cerca, io a farmi posti di loro, cercherei anche io di venire di qua, tanto per essere chiaro, perché non cioè, è che se diamo questo messaggio da accogliere, partono in di più, partono tante persone. Certo, più diamo questa idea che noi accogliamo e ci facciamo così impietosire dalle foto, giusto, insomma, noi abbiamo accolto tutti i 4.000 che sono caduti dalla nave Concordia, sono venuti poi dal Giglio, sono passati all'Argentario, noi abbiamo accolti, certo. Vabbè, però quella è un'altra cosa, è stata la tragedia. No, certo che è un'altra cosa, però dico, l'accoglienza può portare anche a pensare che tutto sommato valga la pena, perché nessuno va in Australia col canotto, perché sanno che non vale la pena, quindi andrebbero. Posso dire che io conosco quelle zone, c'è tanta gente che altro che scappare. No, ma è chiaro, è chi la pone, come dire, in Spagna li respingono, no, nel club di Ceuta, e quindi non puntano alla Spagna ma puntano all'Italia. Andrea Segre, è un po' così, cioè purtroppo abbiamo creato una sorta anche di incentivo di mercato di esseri umani. Assolutamente no, noi per anni abbiamo cercato di dire che chiudevamo anche per tutto, e invece continuavano a premere, e non è vero che in Spagna non continuano a premere, non è vero. Negli Stati Uniti hanno costruito un muro di chilometri e chilometri con la frontiera del Messico, e ogni anno passano centinaia di migliaia di persone lo stesso e continuano a premere. la chiusura non è sufficiente a una persona per dire allora non ci provo, anzi, così succede in tutto il mondo, anche in Australia si chiudono ma continuano a cercare di andarci, certo è fisicamente più difficile. È più difficile raggiungere l'Australia, certo. Però quella è una questione fisica. Purtroppo i messaggi di chiusura e i tentativi di chiusura, guardate cosa succede a Calais. Calais c'è un tunnel che viene chiuso ermeticamente con un controllo fortissimo da parte della polizia inglese, la polizia francese per i controlli. Eppure si ingegnano in tutti i modi, cioè cercano di passare. Che continuano a vivere lì per cercare di passare, chi ci riesce e poi dopo dice agli altri di provarci. Perché è la logica della chiusura che determina semplicemente l'aumento della pressione. È un po' come gli argini dei fiumi, più li tiri su, più il fiume spinge perché non lo rompe. Io ringrazio per il momento Andrea Segre, ricordo vedremo poi l'11 settembre questa camminata a piedi nudi che coinvolgerà molti artisti, molti personaggi del mondo del cinema, della cultura, del giornalismo italiano a Venezia. Ringrazio anche il sindaco di Monte Argentario che dunque ha coronato il suo sogno, fare il sindaco per ben due mandati, Arturo Cerulli, per essere stati con noi. Se volete su questo tema 800 24 00 24 i numeri sono aperti, ma noi avremo ritornati da pubblicità il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, torna con noi Vincenzo De Luca tra poco. Siamo qui, sono le 8 e 38 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, a me ha colpito molto una cifra che è stata diffusa ieri e che è questa: sapete quanto spende ogni giorno il governo, che quindi noi, per la gestione delle ecoballe in Campania? Anzi, questa cifra ve la faccio dire dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, che ieri l'ha detta. Presidente De Luca, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Quanto è che spendiamo ogni giorno, ogni giorno quanto spendiamo? 120.000 euro. Ogni mattina il governo italiano stacca un assegno di 120.000 euro che manda all'Unione Europea per pagare l'infrazione che c'è stata comminata dalla Corte di Giustizia Europea per reato ambientale. Cioè, non so se ci rendiamo conto, 120.000 euro ogni giorno che Dio manda. E questa penale ovviamente si aggiunge ai 20 milioni di euro secchi che già abbiamo dovuto pagare una tanto. A me pare francamente un delitto nei confronti del nostro paese, un delitto sul piano finanziario, un delitto sul piano dell'immagine. Dunque abbiamo deciso di affrontare di petto il problema delle ecoballe della Terra dei Fuochi per risolvere in maniera definitiva una questione che si trascina da 16 anni e rispetto alla quale abbiamo soltanto balbettato. Ecco, le soluzioni. Una parte delle ecoballe andrà fuori regione. Intanto fuori regione che vuol dire, Presidente De Luca? Avete preso accordi con qualche altra regione? Da qualche parte devono andare? Allora, il problema è assolutamente di proporzioni gigantesche, parliamo di 5 milioni e 600 mila tonnellate di ecoballe. Rispetto a questa dimensione del problema non c'è una soluzione semplice. Abbiamo dovuto mettere in campo un programma che regge su tre iniziative. La prima, portare fuori regione un po' di rifiuti da mandare in altre parti d'Europa, in altre parti d'Italia dove c'è capienza, facendo accordi diretti con le regioni come prevede la legge. E ne ha già non fatti. Possiamo portare tutto fuori, perché portare tutto fuori significa dover spendere 1.300.000.000 di euro e dunque questo è incompatibile. La seconda strada che seguiremo è quella di fare un'ulteriore tritovagliatura e selezione dei rifiuti e delle ecoballe, cioè eliminiamo il materiale riciclabile, materiali ferrosi, plastica, vetro, riducendo di un altro 30-40%. L'ultima soluzione è quella di produrre in un altro impianto di trattamento il cosiddetto CSS, combustibile solido secondario, da utilizzare poi come combustibile pulito nelle cementerie, nelle centrali elettriche, in altri impianti di termovalorizzazione e cose di questo tipo. E riguardo al primo punto, ha già qualche accordo con qualche regione italiana oppure con qualche paese? No, definiremo in questi giorni gli accordi. Sapete che già oggi molti rifiuti vanno in Olanda, vanno in altri paesi d'Europa, però i costi sono spaventosi, 150 euro a tonnellata. No, non si scelga bene le regioni a cui rivolgersi, perché sennò sa che parte subito. No, noi rifiuti della Campania non li vogliamo. No, credo di poter dire che possiamo contare su una credibilità diversa, mi permetto di sostenere. Quindi gli amici sanno che se assumiamo un impegno, quello è. A volte, diciamo, il rifiuto deriva dalla non fiducia, nel senso che non si sa che diavolo di rifiuto mandiamo, se dentro i rifiuti che si mandano magari sono rifiuti speciali. Qui bisogna fare le persone serie per avere la fiducia da parte degli altri. Però, qual è la novità? La novità è che noi diciamo no ad altri termovalorizzatori. Questo ce l'aveva già detto. Perché no? Perché ci vuole troppo tempo per non questo. Per ragioni ideologiche, io non ne ho, ma per ragioni economiche. Intanto partire oggi con un termovalorizzatore significa attivarlo fra 4 anni. Io in 4 anni il problema voglio averlo già risolto. Secondo, per ragioni economiche. Termovalorizzatore significa investire 350 milioni di euro, sì. E mi pare complicato fare un piano economico finanziario che abbia una sua redditività dopo con questo livello di investimento. Tenga conto che noi abbiamo avuto già una riduzione in assoluto di rifiuto prodotto, siamo passati da 5 milioni e 6, 7 a 5 milioni e 2, quindi se incrementiamo di un altro 10-15% la raccolta differenziata, davvero il problema. E questo potrebbe essere una soluzione ulteriore. Mi ha colpito però un'altra cifra, non solo i 120 mila euro al giorno che stacchiamo e diamo all'Unione Europea, ma anche i 600 milioni che mi pare che lei abbia chiesto al governo. Perché ha chiesto altri 600 milioni? Perché questi sono altri soldi dei contribuenti. Questi sono i costi per lo smaltimento. Guardi, la vicenda è talmente aggrovigliata in questi 16 anni. Cioè, se io dovessi oggi chiedere a qualcuno di quelli che sono intervenuti sull'ecoballe, scusate, alla fine chi è il proprietario di questa ecoballe? Non si sa. Ma lei lo sa che non sappiamo neanche formalmente chi è il proprietario. C'è un contenzioso che dura da 16 anni fra FIBE, che era la società concessionaria di 20 anni fa, e poi il rifiuto del post 2006 che è stato gestito dal commissariato di governo Bertolaso, quindi quello dovrebbe essere proprietà dello Stato. La mia posizione è questa: in attesa che definiamo con le carte bollate i contenziosi, io devo risolvere il problema. Ovviamente il costo dell'operazione è quello che è. Sì. Allora, anziché pagare questi soldi a vuoto all'Unione Europea, facciamo uno sforzo, diamo una mano, però passiamo, come dico io con uno slogan, dalla terra dei fuochi alla terra dei fuochi e ripristiniamo un'immagine di civiltà e di dignità del nostro paese. Alla terra dei fiori, credo che lei volesse dire. La terra dei fiori. Certo. Sì, ma 600 milioni dove li trova? Cioè, lei ha già chiamato Renzi, gli ha detto mi servono 600 milioni. 600 milioni bisogna reperirli nell'ambito della nuova legge di stabilità, legge finanziaria. Ovviamente non vanno cacciati tutti. Facciamo un piano biennale, triennale, noi ci impegniamo a realizzare altri 4 o 5 impianti di compostaggio, era il tassello che ci manca. Fra gli impegni che avevamo assunto con l'Unione Europea c'era quello di fare 3 termovalorizzatori, di fare parecchi impianti di compostaggio e di bonificare le discariche. Sì. Non abbiamo fatto né questo né quello né quello e dunque ci hanno mandati a quel paese. In tutto questo c'è stata anche una polemica, non è mancata, con Gigi D'Alessio. Ma che è sta polemica? Il 6 settembre c'è questo concerto, non le è piaciuto, a lei non piace il titolo Mala Terra, ma no. Al di là di questo ci andrà a questo concerto o no? Lei no. Ma se sto libero ci vado pure al concerto, no? Abbiamo avuto una telefonata molto cordiale con Gigi D'Alessio. La domanda che mi hanno fatto è: lei pensa di dover fare altri concerti? Mi sono limitato a dire: guardate, io non credo che risolviamo i problemi con i concertini, i problemi di immagine della Campania, ma risolvendo i problemi. Per il resto credo che si farà e sarà un bel concerto questo di Gigi. E ovviamente mi ha spiegato che Malaterra è il titolo di una canzone, per questo Malaterra, però chi ascolta e dice facciamo una bella iniziativa di promozione dell'immagine della Campania e il titolo dell'iniziativa è Malaterra, buonanotte. non credo che sia il massimo dal punto di vista comunicativo. Si parte male. Senta, Presidente De Luca, non c'è nessun problema, è grande cordialità con Gigi D'Alessio. Va bene, è tutto a posto. La domanda è questa: la Corte Costituzionale, la notizia di fine agosto, ha giudicato incostituzionale il bilancio della regione Piemonte. Perché, che è successo? Lo Stato aveva prestato dei soldi alle regioni, 26 miliardi, vincolando tutto ciò a ripianare i debiti delle regioni, e le regioni forse glielo chiedo anche la campagna, le ha usati per finanziare nuova spesa corrente. Cioè c'è il rischio che tutti i bilanci delle regioni siano incostituzionali. Quello della campagna, c'è questo rischio? Molto limitato, sinceramente, nel senso che noi abbiamo ricavato la nostra fortuna dalle nostre disgrazie, nel senso che siamo commissariati appertutto. Abbiamo la sanità che è commissariata, sapete, non abbiamo un assessore alla sanità e finché non completiamo il piano di rientro c'è un commissario nominato dal governo. Per tante aziende pubbliche, in particolare del trasporto, ci sono commissari, quindi vi è stata, diciamo, una gestione abbastanza attenta anche di quelle disponibilità. Quindi sinceramente da questo punto di vista non avremo il problema del Piemonte. Non ce l'avrete. Rimane invece quello che ci aveva annunciato qui, la sanatoria che lei vuole fare per alcuni degli abusi edilizi che sono fatti in Campania, alcuni e non quelli del vincolo territoriale o vincolo di tutela paesaggistica, però per alcuni rimane questa idea. Vede, l'Italia è il paese del mezzo, come dico io, e del fare finta, del mezzo nel senso che non si decide mai fino in fondo, e del fare finta nel senso che dobbiamo fare finta di essere rigorosi, fare finta di approvare leggi per la moralità pubblica, fare finta. Beh, noi abbiamo 80.000 alloggi abusivi cresciuti negli ultimi 20 anni. Che cosa si pensa di fare con 80.000 alloggi abusivi? Se solo dovessimo immaginare una discarica dove portare il materiale di risulta, già avremmo un problema irrisolvibile. E poi chi va a demolire tutto questo? Allora, se vogliamo salvarsi la coscienza e far finta di essere ambientalisti, mai più sarà benissimo. Dopodiché gli edifici rimangono lì con un doppio danno, ovviamente, sì. Che questi appartamenti abusivi sversano i liquami nei terreni e inquinano pure le fare di acquifero. La mia posizione è, come sempre, estremamente realistica e rivolta alla soluzione concreta dei problemi. Allora, escludiamo dalla sanatoria chi ha costruito in zone pericolose per la pubblica incolumità, greti dei fiumi. Chi ha violato vincoli di paesaggio assoluti, chi ha costruito in costiera amalfitana, sorrentina, no, nessuna sanatoria. Chi ha realizzato immobili avendo interessi della camorra dietro. Per il resto, se c'è un alloggio abusivo in un'area interna della regione dove non si danneggia nessun paesaggio, rendiamo possibile, come dire, l'inclusione di questi immobili nell'ambito di piani di recupero da approvare in maniera ragionevole. Quindi facciamo ordine sul piano urbanistico, facciamo pagare la Bucarossi dando una mano ai comuni, sì. E facciamo gli allacciamenti idrici in maniera tale che evitiamo l'inquinamento pure dei terreni. Questo è tutto ragionevole. Per concludere, De Luca, la vicenda sulla sua incompatibilità presunta si è chiusa, ha più sentito però Rosi Bindi, o sentirebbe più Rosi Bindi a questo punto per riappacificarsi in maniera tranquilla, in maniera serena? Beh, abbiamo cominciato una mattinata con la terra dei fuochi, perché lei vuole essere così cattivo stamattina? Dai, cominciamo una bella giornata. Ma un caffè con Rosi Bindi, che sarà mai? Fiori a tutti, alla terra dei fiori, fiori a tutti. Anche a Rosi Bindi a questo punto. Fiori a tutti. Anche a Rosi Bindi, che dobbiamo fare? Tra tutti ci sarà anche Rosi Bindi. Un fiore, una rosa, la mandiano anche a Rosi Bindi. Sarebbe, un fiore, una rosa, un giglio, un crisantemo, quello che vuole lei. No, il crisantemo. No. La ringrazio, guardi che riparte Crozza, stia attento, riparte, credo. Oddio, questo me l'ho dimenticato. Credo a giorni. Una buona giornata, ovviamente, Presidente grazie, De Luca. Grazie a lei, un saluto agli ascoltatori. Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, è il momento del traffico. Allora, sono le 8:50 minuti, voglio sentire qualche ascoltatore. Giancarlo da Torino, buongiorno Giancarlo. Buongiorno Milan. Eccoci. Ascolto sempre Radio 24, una bella benissimo, radio. Benissimo. Ascolti, volevo dire, circa l'intervento prima del regista Segre, sì. Può essere interessante la sua marcia, però quando facciamo le trasmissioni non dobbiamo solo parlare degli effetti, dobbiamo parlare anche purtroppo delle cause. Non dimentichiamo. Sì, c'è un audio, Giancarlo, la sentiamo malissimo, le cause, non so, ieri abbiamo parlato per esempio di tutto il conflitto in Siria, del fatto che non si fa nulla per intervenire in Siria, ieri ne abbiamo parlato, forse si riferiva a questo, no? C'era l'audio anche molto disturbato, però certamente ci sono le cause da affrontare, chiaro, Andrea Segre fa questa iniziativa, sarà sicuramente anche un po' derisa, criticata, i giornali oggi sul sul Libero appunto c'è scritto: speriamo che trovino dei sassi molto appuntiti così divengono le vesciche. Vabbè, ma insomma ci sta. Siamo in Italia, nell'Italietta a volte ci sono anche queste polemiche, però è chiaro che non è che si risolvono le cose così. Ci sono però delle iniziative che magari possono anche servire a sensibilizzare. Esiste anche questo, no? In una società normale. La ringrazio Giancarlo. Andrea Vicenza da Gastone. Buongiorno Gastone. Buongiorno a tutti. Eccoci. Io volevo chiedere lumi perché ho sentito di striscio il ministro Alfano, che non stimo, e da quanto ho capito la sua proposta sarebbe che una volta stabilito il numero di migranti che il nostro paese dovrebbe accettare, sì, questi verrebbero suddivisi per regione. Beh, e questo... dovrebbero accettare la destinazione senza potersi opporre. Beh, questo già in teoria succede, cioè, quando arrivano sì, si distribuiscono. Se questa cosa verrà stabilizzata, non vedo perché uno che ha parenti a Vicenza debba essere mandato in Campania, insomma. Effettivamente. Spero si tenga conto. A chi può integrarsi. Ah, lei dice che bisogna essere... Mi sembra una proposta un po' che crea ancora malcontento ulteriore. Insomma, lei vorrebbe dire, se teniamo anche conto del fatto se hanno dei legami, se hanno delle... Beh, certamente è una proposta molto lungimirante la sua, Gastone. Vorrei andare a Lecco da Dennis. Buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo aggiungere rispetto a quello che ha detto il signor De Luca, sì, dei famosi 600 milioni, che la Comunità Europea, prima cosa, ha vietato la parola termovalorizzatore, ma deve essere chiamato inceneritore. Vabbè. E perché tradisce molto questa parola. Okay. E poi la premessa è che con una vagliatura meccanizzata si danno posti di lavoro e si arriva fino all'80% del recupero, di cui tanti comuni tipo Capannori sono riusciti oltretutto a salvare anche il bilancio comunale, perché guadagnano soldi. Perciò non prendiamoci per il sedere, i rifiuti creano soldi. Tornando invece al discorso tragico degli immigrati, io ho visto su internet il video del bambino sulla spiaggia, c'erano cineoperatori e fotografi, il bambino veniva bagnato dalle onde e per 10 minuti quel bambino è rimasto lì sotto le onde, e per me mi ha fatto veramente uno shock diretto. E questi cineoperatori e fotografi, invece di prendere il bambino e portarlo sulla spiaggia, erano lì a fare il loro lavoro sporco. C'erano però i poliziotti. No, un'altra cosa non fa in tempo, Dennis, c'erano i poliziotti turchi. E ce la facciamo andare in onda alla segreteria telefonica per concludere questa parte? Sì. Caro Alessandro, a Roma è di norma vedere intorno ai cassanetti appena svuotati un mucchio di immondizia, perché il camion che svuota c'ha solo un uomo a bordo che aggancia il cassonetto, lo scarica e lo riposiziona, e solo se siamo fortunati nell'arco della giornata viene qualcuno a caricare tutta l'immondizia che gira attorno. Prima di dire qualsiasi cosa, proviamo per una volta a valutare se quello che stiamo per dire ha più valore del nostro silenzio. Proviamo. Alessandro Mila, ciao, continua così, va avanti così, va bene così, bravo, bravo Alessandro, bravo, ti ripuito le notizie e noi ascoltiamo, bravo, va avanti così, va avanti così. Dai con queste notizie, Alessà, forza Milan, però se serve ognuno te chiamavi Roma era morto meglio. E va bene, forza Roma, non faccio mica come l'assessore Esposito, ma noi continuiamo fino alle 9.30, parleremo tra poco, pensate, di cinghiali, c'è emergenza cinghiali in Italia, tra poco! Un saluto da Maurizio Melis. Nella puntata di Smart City di stasera parleremo di Elmin MR, un nuovo tipo di microscopio in grado di investigare le caratteristiche di celle a combustibile, batterie ed altri apparati elettrochimici mentre sono in funzione. Elmin MR è figlio della risonanza magnetica funzionale utilizzata da alcuni anni in medicina, grazie alla quale è stato possibile fare grandi progressi, per esempio nel campo della neurofisiologia, proprio perché ha consentito di studiare il funzionamento funzionamento del cervello in tempo reale. Ora il gruppo di ricercatori dell'Università di Pavia, che ha messo a punto questo nuovo microscopio, si appresta ad utilizzarlo per studiare le celle a combustibile a idrogeno, con l'obiettivo di risolvere uno dei problemi più frequenti cui va incontro questa tecnologia cruciale per lo sviluppo dell'economia all'idrogeno: l'avvelenamento da acqua. Per saperne di più, l'appuntamento con Smart City è stasera alle 20:50, come sempre qui su Radio 24. Buona giornata. Audi ti aspetta su audiinnovativethinking.it, la piattaforma delle idee e delle persone che aprono la strada al cambiamento. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Ancora una volta ci ha pensato Super Mario Draghi a tranquillizzare temporaneamente almeno i mercati finanziari. Non è stata tanto la decisione di lasciare i tassi invariati, era infatti ampiamente scontata, quanto i commenti che l'hanno accompagnata ad avere generato ieri l'euforia delle borse. Draghi ha infatti fatto capire che non solo il quantitative easing, quindi l'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, le banche centrali nazionali, continuerà, ma ha anche annunciato a sorpresa che continuerà, se necessario, anche oltre settembre del 2016. Più scontata, perché in parte già annunciata, ma non meno significativa, anche la decisione di aumentare la soglia di titoli di Stato che la Banca Centrale Europea può comprare durante un'emissione di un paese dell'area euro, portando dal 25 al 33%. In sostanza, Mario Draghi ha fatto capire che la ripresa in Europa c'è, ma è più lenta del previsto, che ancora permangono numerosi dubbi sull'inflazione dell'area euro, troppo bassa a segnalare consumi e una dinamica economica non soddisfacente, e ha ribadito che proprio sul tema dell'inflazione la Banca Centrale Europea è pronta a usare tutti gli strumenti a sua disposizione. Un Mario Draghi che ha voluto anche fare un riferimento forte a quanto sta avvenendo alle frontiere dell'Europa, dicendo che ogni europeo dovrebbe inorridire per quanto sta accadendo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. E allora, ben ritrovati da Alessandro Milan. Come sapete, andiamo avanti fino alle 9:30. E adesso parliamo di cinghiali. Sì, non fate quella faccia, parliamo di cinghiali. Guardate che i cinghiali in Italia pare siano 1 milione in questo momento, perché tendono a riprodursi molto, molto velocemente. E secondo la Coldiretti, per dire, hanno distrutto raccolti agricoli per 100 milioni di euro di danni, facendo 100 milioni di euro. A parte, voglio dire, ci sono state delle persone morte, una quest'estate a Cefalù attaccata a un cinghiale, ci sono stati anche due incidenti di recente, uno in Abruzzo, uno in Toscana, di persone che con la macchina sono andate a sbattere contro un cinghiale e sono morte, ma insomma, io devo dire, questa è magari fatalità del rapporto con la natura. Ma ci sono le regioni, molte regioni, a dire bisogna fare dei piani per fare che? Per abbatterli, per ucciderli, per diminuirne il numero. E ovviamente questo interroga il nostro rapporto con la natura, con gli animali, con l'ambiente che ci circonda. Per questo voglio salutare con molto piacere un graditissimo ritorno, Mauro Corona, scrittore, alpinista, ex cacciatore anche. Mauro, buongiorno, ben trovato. Sì, buongiorno a tutti voi. L'ultima opera di Mondadori è I misteri della montagna. Immagino anche mangiatore di cinghiali, senza problemi, Mauro. Ho mangiato anche cinghiali, ho mangiato di tutto. Tra l'altro, se andava a caccia, noi, perché non potevamo andare in macelleria, per noi la caccia è stata un mezzo per sopravvivere. Oggi non ci vado più perché non ho necessità, ma non mi scaglio contro la caccia. Tra l'altro, ultimamente avevamo fatto un dibattito prima dell'estate su carne sì o no, no? L'approccio vegano oppure l'approccio o vegetariano, se volete, e l'approccio carne sì. Come va dopo quel dibattito? Perché ci eravamo lasciati un po' dubbioso. No. Io non ho nessun dubbio. Sì. Neanche quello dell'incertezza, diceva Borges. Sono per una scelta mia adesso non mangio carne per vedere come sto, come va il mio fisico, come... però se mi capita mangio la carne, non ho alcuna remora per mangiare carne, o ne mangio pochissima ora, ma se mi capita la mangio, non senza non alcun scelte problema. Drastiche, no? Senza alcun problema. E questa storia del cinghiale, ma sono davvero un problema? Che animale è il cinghiale? Ma il cinghiale è come tutti gli animali, come il camoscio, come i cervi, qui abbiamo un'invasione di cervi, cioè, ma stanno nella natura, si riproducono con molta, sono molto prolifici e quindi possono a volte infatti creare dei problemi. Non certo quello che attaccano l'uomo, il cinghiale attacca se passa una persona, un essere umano tra la femmina e i piccoli, allora attacca, qualsiasi mamma attacca quando gli tocchi il piccolo, sì. E quindi anche l'orso diventano un problema perché sono molto numerosi adesso, quindi ci sono questi piani di abbattimento, di selezione, qui guardi che sono morti per non operare la caccia di selezione, sono morti 3.400 camosci con la malattia, sì. Quindi se fossero stati selezionati, resi meno consanguinei, introdurre dei capi nuovi che vengono da altre montagne, ecco, forse sì, avrebbero sofferto meno, tra l'altro. Ma comunque questa è un'idea mia, e rispetto anche quelli che dicono che non si possono selezionare, non si possono toccare, che devono morire da soli. Non punto il dito contro nessuno. Ah no, questo certamente. Però sono un problema. Anche qui sono i cinghiali, hanno vangato i prati, hanno vangato tutto. L'anno scorso ci fu un incidente che con un cinghiale qui che per poco ci lasciava la pelle, ma non è questo il fatto che bisogna eliminarli per evitare gli incidenti di auto, per carità, non si vuole. Uno dei problemi è anche questo, che invadono le strade, ma beh, chiaro, il numero è in esubero. Certo, però quando la Coldiretti dice 100 milioni di euro di danni l'anno, insomma, questa è la stima, evidentemente questi danni ci sono. Però Mauro Corona, voglio presentarle due ospiti. E Carla Rocchi è presidente nazionale dell'EMPA, cioè l'Ente Nazionale Protezione Animali. Buongiorno presidente. Buongiorno. Così come voglio salutare il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli. Sindaco, buongiorno. Perché anche buongiorno, nelle Marche so che è un problema. Però lei, sindaco, intanto so che ieri Giuseppe Cruciani l'ha eletta come la zanzara d'oro. Non so se conosce la zanzara. No, cioè, con lei che ha fatto la dichiarazione migliore del giorno, la dichiarazione due punti virgolette è questa, no? Io la leggo, lei sì, ce la deve confermare, sì. È vero, sì, che lei ha detto dei cinghiali bisognerebbe usare il lanciafiamme e andrebbero sterminati, anche se sicuramente ci saranno ambientalisti cretini che protesteranno, sì. Lei ha detto così? Sì. Sì, ho detto così, ovviamente con una precisazione che mi sembrava inutile dover fare, ma visto che i cretini sono diffusi vale la pena farla. È evidente che la proposta di usare, cioè la espressione di usare il lanciafiamme non era una proposta, cioè sarei da TSO, TSO è il trattamento sanitario chiaro, obbligatorio, chiaro. Ecco. Cioè, voglio dire, neanche... Però appunto, che siano da sterminare, ma no, sì. Allora, andiamo per ordine. Non ho mai proposto di usare il lanciafiamme. Era ovviamente una battuta del tutto iperbolica per dire però una cosa, sì. Però per dire che dopo 10 anni, perché questo è il tempo reale nella nostra regione, credo in tutta Italia, dopo 10 anni di riflessioni, confronti, concertazioni, approfondimenti, sinergia tra istituzioni, potrei continuare così per una ventina di minuti. Sì. Il problema è ancora lì. Il problema è ancora lì, non solo è ancora lì, si è aggravato sia in termini di danni per l'ambiente, io parlo del Parco del Conero, che è una grande e bella realtà di cui il Comune di Ancona è parte, nel senso che buona parte del nostro territorio, e siamo contentissimi e orgogliosissimi di stare dentro un parco naturale, nel parco, nell'area del Parco del Conero e aree circostanti, perché non è soltanto l'area del parco. C'è un problema serissimo, c'è un problema di danni all'ambiente, perché è stata una specie introdotta che non era, diciamo, autoctona e non era assolutamente tradizionale dalle nostre parti. Ci sono danni spaventosi all'agricoltura, quelli sì, che diceva prima lei, e ci sono problemi di incolumità pubblica. E quindi va fatto qualcosa. Allora, però... qualcosa di preciso. Sì. Siccome da 10 anni si sono fatte le selezioni, gli interventi mirati, che non hanno Che cosa di preciso problema, ha fatto, sindaco? No, appunto, no, sono vanno uccisi, cioè questo, vanno ridotti cioè, i numeri. Cioè, si a sentire, se è possibile fargli fare a tutti una gita nei Balcani e tornare a casa loro, ovviamente saremmo tutti contenti, ma siccome tutte le concrete azioni fatte portano alla conclusione, ma non lo dico io, lo dicono, lo dice perfino l'UWF, Lega Ambiente, sì, eccetera, sì, portano alla conclusione che vanno, vogliamo usare un termine politicamente corretto, eradicati, sì, eliminati. Purtroppo significa l'eliminazione fisica. E non c'è, non c'è altra soluzione. Non c'è, certo, ma no, chiaro, ovviamente i cacciatori. Non con lanciafiamme, ma no, ovviamente ma chiaro, non con lanciafiamme. È stata un'iperbole. Lo dico a tutti i cretini, ambientalisti o meno, che hanno potuto credere anche, o far finta di credere anche solo per 15 secondi, che una simile sciocchezza. Però, sindaco, no, ma infatti lei il tema c'è. Vorrei coinvolgere su questo Carla Rocchi, detto che il lanciafiamme è un elemento che non utilizzerebbe il sindaco, anche se l'ha usato come termine iperbolico. Presidente Rocchi, che ne dice di questo approccio? Io il lanciafiamme lo lascio proprio lasciamolo da parte, nel punto del secchio dell'immondizia. Detto questo, faccio due considerazioni. Io sono d'accordo molto con Corona quando dice che i cinghiali non sono pericolosi se non quando qualcuno si intromette tra la mamma e i piccoli. Questa è una cosa che succede in natura sempre, qualche volta non succede tra gli umani, ma pazienza, voglio dire. Sono perfino d'accordo col sindaco di Ancona quando dice che questi animali sono diversi da quelli che erano i nostri cinghiali autoctoni, però non è un bel servizio alla verità quello di dice sono stati introdotti, perché non è che i cinghiali dell'est hanno fatto la valigia e sono venuti da noi perché gli piaceva cambiare aria. Qui sono stati spesi milioni di fondi pubblici molto superiori a quelli dei danni subiti dagli agricoltori, che peraltro sono stati ampiamente risarciti. Sono stati spesi milioni di fondi pubblici per fare i cosiddetti ripopolamenti, che significa presi cinghiali dall'estero, fatti venire qui, fatti incrociare con i nostri, fatti riprodurre. E poi la situazione è sfuggita di mano, però adesso. Cioè, no, ma questa gente qua, ma lei si rende conto che noi siamo amministrati in gran parte da delinquenti che su questa operazione hanno lucrato? Perché l'operazione di far i ripopolamenti costa soldi nostri, decisioni non prese dai cittadini ma prese da chi lucra su questo, sì, per fare che cosa? Naturalmente per favorire. Però di fronte al fatto, non so, dei danni, io non so la cifra della Coldiretti, se è vera, 100.000 euro. La Coldiretti ci dovrebbe dire quanto hanno avuto di risarcimenti, non solo i danni che hanno subito, perché come gli incidenti di macchina, uno dice ho avuto danni per tanto, ma sì, quanto ti ha risarcito l'assicurazione? Allora cominciamo a fare i conti con dare e avere. Dopodiché, sì, però il danno oggettivo alla fine c'è, al di là di tutto poi chi paga? Il danno oggettivo è risarcito. Ho capito, ma se lo risarcisce vuol dire che l'assicurazione la pagherà qualcuno, i soldi comunque, il danno c'è, poi lasciamo stare chi li paga, 100 milioni di euro facciamo conto che li debba mettere io di persona. Al posto ma non li deve mettere lei, certo, io sarei felice che qualcuno chiedesse conto ai nostri amministratori dei soldi nostri, lo sottolineo, nostri, che sono stati spesi per ripopolare. E per fare che cosa? Per consentire alla gente poi di andare a caccia di cinghiali. Allora, detto questo, prima consideriamo i cretini che stanno, quelli sì, veramente molto cretini, sì, che ci amministrano al di là del nostro consenso e che permettono tutto questo. Dopodiché esistono piani elaborati da una vita, ma d'altronde è evidente che fa più notizia, che si va sul giornale, che è più semplice per conoscenza andare a proporre soluzioni. No, ma certo, però io vorrei fare questa considerazione con Mauro Corona, se è d'accordo, e cioè non c'è dibattito che si animi di più di quando poi andiamo a toccare il tema del rapporto tra noi e gli animali, molto spesso noi e la natura. Mauro Corona, è così, cioè poi la gente si accalora, si appassiona, ma giustamente, questo è un bene, credo, no? Quando andiamo a toccare il rapporto tra noi esseri umani e l'ambiente che ci circonda, o no, Mauro? Ma io penso che l'animale abbia diritto quanto noi a stare nel suo habitat, o no? Sì, quindi, assolutamente. Perché io ho sentito discorsi con l'orso in Trentino che bisogna far fuori l'orso, prima hanno speso soldi, come ha detto, ho sentito ora, per introdurlo, e dopo prendono soldi per abbatterlo. L'orso ha diritto di stare quanto l'uomo. Occorre, e lo dirò sempre, un'educazione nelle scuole, mandare. Io ho avuto l'ardire e mi sono arrivate migliaia di mail di offese di mandare nelle scuole i cacciatori, non a insegnare a uccidere animali, ma nessuno come il cacciatore può insegnare ai bambini, i futuri frequentatori di montagna o di ambiente selvatico, come muoversi, come camminare, quando l'orso c'è i piccoli, di non andare in certe zone, di non andare, come andare a funghi, uno non è che guardi che il rapporto tra uomo e natura è ormai separato da una valle immensa, e non più di pochi giorni fa, una famiglia di una città qui nel nord ha scambiato i mirtilli con la bella donna e si è avvelenata, cioè, non sappiamo più nulla, quindi bisogna mandare contadini, artigiani, cacciatori, guide alpine, gente che ne sa educare questi bambini, che un giorno abbiano un rapporto con l'animale, perché l'animale ha diritto quanto noi a stare nel suo habitat. Sì, siamo noi che vogliamo eliminarlo perché abbiamo paura della vipera, ma si ricorda un 30 anni fa che pagavano 1.000 lire a testa o la vipera uccise, c'è una diseducazione colossale. C'è il posto per tutti. Ripartire da qui, insomma, dall'educazione. Però io vorrei, sindaco di Ancona, no? Sindaco Mancinelli, ma lei cosa chiede in concreto? Cioè, cosa vorrebbe per le regioni Marche? Guardi, lo dico subito. Sì. Io non sono un tecnico, come dire, della materia, quindi non è che faccio io il piano per eradicare. Così si dice, no? Politicamente corretto. Senza lanciafiamme e facendo tranquilli gli ipocriti di tutto il mondo. Allora, io non scelgo io la tecnica, ok? Quello che pongo come problema, tra l'altro la questione l'ho posta a una riunione di sindaci, cioè non è che stavo agitando le folle per dare l'assalto. Assolutamente. Era una riunione di sindaci, di amministratori con la giunta regionale per affrontare le questioni sul tappeto. Allora, la cosa che io pongo è la seguente: si faccia un brainstorming invitando tutti i geni di questo mondo, la Regione Marche provi un piano di eradicazione dei cinghiali. Adesso parlo della zona del Parco del Conero e della zona intorno alla mia città perché è quella che conosco meglio, ma so benissimo che il problema è lo stesso anche nelle zone collinari e montane della Regione Marche. Un piano che non sia fatto di aria fritta, un progetto, come posso dire, un piano industriale, lo vogliamo chiamare così, un progetto che dica: da qui a X tempo decido di mettere in campo queste azioni, mi attendo questi risultati, li verifico, cioè quello che si fa normalmente quando ci si dà un problema, una risposta. Chiedo questo e chiedo che questo avvenga in tempi non storici. Peraltro su questo, in quella riunione di amministratori, al di là appunto delle sciocchezze sui lanciafiamme, c'è stata grande condivisione degli amministratori e anche, devo dire, la nuova giunta regionale, del presidente della giunta regionale. Il problema è che io non ce l'ho con i cinghiali, ce l'ho con la politica, quando non fa il mestiere suo, con le istituzioni. Questo è chiaro. Lei ha lanciato il tema di un problema. Sentiamo degli ascoltatori. Vincenzo da Firenze ci chiama. Vincenzo, buongiorno. Mi dicono di essere cacciatore, vero? Lei è cacciatore. Sì. 42 anni di posto d'armi e tanti anni di caccia di selezione. La premessa ha detto che la caccia segue quello che è l'andamento della politica, come diceva il sindaco, cioè non si decide, c'è una struttura, una sovrastruttura della struttura. Le responsabilità vanno suddivise anche fra i cacciatori che tendono a tutelare il proprio prodotto per continuare, non fanno realmente gli abbattimenti che dovrebbero, le istituzioni, ISPRA per prima, che dice delle stupidaggini, che proprio dice ma da dove arrivano, cioè deturpazione del Chianti esempio, perché rescinzione di tutti i vitigni. Però queste sono tematiche riguardanti la caccia. Restiamo sulla questione del cinghiale. Vincenzo da cacciatore, è un problema il cinghiale secondo lei? Il cinghiale è assolutamente un problema, e nella maniera più assoluta, perché il numero e la quantità che è adesso il cinghiale sul territorio è troppo, è troppo. Bisogna tornare a 30 anni fa, che le squadre dei cinghialai cacciavano 3-4 animali. Oggi anche una squadra, se ne caccia 15, non è soddisfatta. E anche nella cultura del cacciatore, l'andare per boschi è rischioso, giustamente deve essere rischioso, come diceva Corona. Bisogna levare di mezzo l'ISPRA e le associazioni venatorie. Adesso l'ISPRA e le associazioni venatorie non sono qui, non è un dibattito diverso. La ringrazio comunque, Vincenzo. Andrei a Bologna da Alberto. Buongiorno Alberto, anche lei cacciatore, mi dicono. Sì, Buongiorno a tutti. Io sono un telecontrollore dal 1991, uno dei primi della provincia di Bologna. Quello che voglio dire chiaramente è che nelle zone noi abbiamo troppe oasi e troppi parchi che servono semplicemente come zona di ripopolamento dei cinghiali. Finché in queste zone non viene attuata una caccia di selezione o di battuta per eliminare una buona parte di questi animali, perché l'ISPRA dà dei dati ben precisi di presenza di animali sul territorio e bisogna riportarli a quelli, ma devono essere fatte sia nelle oasi che nei parchi, non solamente nella caccia, perché ad esempio in Toscana ci sono 150 tra oasi e parchi dove è proibito cacciare, poi ci si ritrova con un raddoppio di ungulati, perché non parliamo solo di cinghiale ma anche di caprioli. E poi l'ultima cosa che volevo dire è che bisogna cominciare a smettere di raccontare le balle, perché la signora della ENPA che continua a dire che vengono tirati fuori i soldi dai cittadini italiani probabilmente non conosce la legge 157-92 ma glielo dico io. La 157-92 impone alle regioni di tassare un'ulteriore quota sulla licenza, che è pari alla licenza di caccia, per coprire tutti i danni ambientali. Quindi se la pagano i cacciatori, i cittadini italiani non pagano un centesimo. No, ma lei forse diceva i politici, ma adesso risponderà ai politici che si sono un po' ingrassati, alcuni ingrassati i portafogli grazie a questi ripopolamenti. Aspetti, prima di andare alla risposta però della presidente Rocchi, vorrei capire da Mauro Corona, ma tra le tante mail che sono arrivate, quali erano le offese? Perché l'hanno attaccata? Offese crepa tu, non il cinghiale, non il capriolo, non la vipera, nessuno. Creperemo tutti, tanto stiamo tranquilli. Non è un problema crepare, toccherà a tutti. Cioè, questo vedere la pagliuzza nell'occhio altrui e non la trave, no? Io non sento mai, perché non si proteggono anche le pantegane, i rapi, i vermi dei pescatori? Non si proteggono dei tipi di animali. I pesci, non ho mai sentito parlare di proteggere i pesci. Grandi campagne sui pesci, no? Proteggiamo le pantegane che portano leptospirosi, una malattia terribile. Proteggiamo anche quelle. Ci sono tipi di animali, quelli diciamo le Claudie Schiffer, proteggiamo tutto loro. Queste battutacce fanno. Il troppo di sconcia, dicono qui. Cioè, toglie sapore. Quando c'è un'invasione. Ma già lo fanno gli uomini, questa umanità feroce che si selezionano con le guerre, pensate un po'. Adesso lo sto esagerando, ma per dire che troppe cose. Qui hanno introdotto gli stambecchi, che hanno cacciato via il camoscio ha cacciato giù il capriolo, ce ne sono troppi, e quando sono troppi, invece che buttarli via, farli morire come sono morti 3.400 camosci, si selezionano, quindi può vivere il ristorante, si può mangiare la carne, chi ha voglia di mangiare fare anche un piccolo introito di queste selezioni. Sì. E io la vedo così. La vede così, Mauro Corona. Carla Rocchi vuole rispondere all'ascoltatore che diceva non è vero che gli italiani non tirano fuori neanche un euro per queste. Guardi, io la legge 157 l'ho fatta, quindi pensi un po' se non la conosco. Cosa propone questo signore? Propone di fare cacciare dappertutto. È la sua soluzione, è come se uno dovesse proteggere le vedove e le affida a Barba Blu, le affida all'Andrù. Per i cacciatori l'obiettivo finale è cacciare dappertutto, pure nel salotto di casa, quindi a queste cose nemmeno ci torno su, è una vita che le sento dire queste stupidaggini. Sì. Ha ragione Corona quando dice che in realtà il dibattito, e lei stesso ha detto questo, che il dibattito si accende quando si parla di animali, ma perché? Perché gli animali sono in assoluto la categoria più indifesa, che non ha voce. Qualunque soggetto umano, anche il più infelice, ha sempre qualcuno che lo difende, che lo vede, che lo guarda o che lo può vedere, ha una voce per parlare. E poi vogliamo. Ci sono tanti difensori degli animali, ce ne sono tantissimi. Ma adesso, certo, ma difatti, e poi comunque è una questione di sensibilità personale. Detto questo, io vorrei sapere, nel momento in cui noi stiamo parlando adesso e parliamo di eradicare i cinghiali, quante operazioni di ripopolamento sono in essere? perché noi vogliamo vuotare una vasca, ma non chiudiamo il cubinetto. E quindi se non chiudiamo il cubinetto, se tutta questa brava gente saccente che si riunisce, che parla, straparla e non sa di cosa parla, perché non parla mai di chiudere questo rubinetto? Perché non parla mai di finirla con questi ripopolamenti? Sì. Però allora, dovessero finire i ripopolamenti, presidente Rocchi, lei sarebbe d'accordo o in quanto presidente dell'Ente Nazionale di Protezione Animali mai direbbe abbattiamo un cinghiale? Ma è evidente che a me non si può chiedere una cosa di questo tipo. Perché prima di dire una cosa di questo genere, che ci vuole. Lei dice prima risolviamo il ripopolamento. Allora ammettiamolo che è risolto, che facciamo? Ma non è risolto, perché se noi apriamo gli abbattimenti selettivi senza risolvere i ripopolamenti, noi continuiamo a fare un gran favore a chi abbatte, perché noi continuiamo a mettere materia prima per chi abbatte. Quindi, per quanto mi riguarda, l'operazione pregiudiziale è quella di sapere dove, quando e come finiscono. Sì. E poi dopo si può affrontare tutto anche il resto. Anche perché il contrario sarebbe una vera stupidaggine. Vabbè, diciamo, inizia la stagione della caccia, adesso vedremo se le polemiche continueranno. Per il momento io vi devo salutare e ringraziare. Da Mauro Corona, voglio ricordare il suo ultimo libro, I misteri della montagna, edito da Mondadori, ovviamente lo trovate in tutte le librerie. Grazie a Mauro Corona, così come l'assessore, no, l'ho degradata, ma invece non è così, sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, e il presidente nazionale dell'ENPA, Carla Rocchi, grazie per essere stati con noi. Come dire, fa il cinghiale, mamma mia, no. Questo è un colpo basso di Peter Bescapè, regia, coordinato e coadiuvato dall'altro disgraziato Lorenzo Nespoli. Allora, che dire, si è conclusa la 122esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, ma le province ci sono? Sì. La 123esima potrebbe essere decisiva, chi lo sa. Inizierà lunedì e inizierà alle 6:30 per noi con 24 mattino. Andremo in diretta fino alle 9:30, come sapete, per tutto il mese di settembre, fino al 26, venerdì 26 più o meno. Trovateci come volete su Twitter 24 mattino, ci sono anch'io col mio profilo Alino Milan, se volete seguirmi. Siamo su Facebook 24 mattino e siamo sul sito di radio24.it, ovviamente www.radio24.it, con tanti contenuti extra anche nella pagina di 24 mattino. Non mi resta che ringraziare Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e il nostro Peter Bescapè Alpino in regia. Lo ritroviamo lunedì. Ciao!